cazzo sono qua, Paolo? E già ci sono io qua, sì. Svegliatevi! Ma non mi piace, mamma ci carica il telefono, io vi ascolto, ma non ci parlo lì. Anche voi svegliatevi, siamo lasciati di vento, che... Vabbè, ma tu là! Sì, a vento, sciusciu. Birilli in via con la Malfa stamattina, Birilli per imitare dove c'era gru, non li abbiamo messi chiodi, si sono usciti tutti la carrera, tutti in parte per la carrera, due li hanno rotti perché le sono passati sopra, nuove, cazzo, aveva giudito, mi metti i chiodi, no, non ce n'è vento, non fa niente, mi abba, finta che la transenna ti ha portato. Oggi è forte il vento, è forte, forte, forte. Infatti sono salito qua e ho sentito con roba che io vagava nel terrazzo. Ed era un bidone in cui mi piaceva la pedice e ci avevo sotto la bambina. E mi ha portato le antenne di qua, lui facciamo perdere. Non è nulla. No. E tu ne hai una? Su a Dio c'è la vaginata a capelluria, ma male c'è un'affezione allucinante col rottore, è un cuscinetto che ci spinta la paura, ma da una parte all'altra sai come oscilla, pare che voglia sganciare da un momento all'altro, ma c'è stato un vento più forte, no, non ha sganciato, è circa 70-80 km di raffica, so, così segnala, poi... Sì, che cali un pochino, mi sembra che abbia calato un po', però sta sempre piovendo, sempre, sempre piovendo, allucinante. Nel marmo della finestra ci deve essere qualche manca qualche pezzo di silicone, adesso hanno fatto un po' bello la silicone di nuovo sotto dove c'è i fissi in alluminio, forte forte, maestrale, sì, tu bello prendi da lì, arriva da lì la cazzo sarda della Ginara, ma in occhio la faccia piena proprio bello bello forte. Sì, vabbè, tu sei molto in alto, anzi, sì, e lo prendi ancora più in pieno, e quindi, sì, confronto a tutti gli altri, sono in alto anch'io, insomma, e già lo prendo in pieno, lo stesso. Io lo prendo in pieno. No, tanti sono stati in campagna, per mangiare i gatti che ci sono, controllare, e sotto invece c'è il campo sportivo per salire a Monte Oro. È caduto un albero, c'erano i vigili del fuoco che stavano sistemando, facendo un eucalipto vecchio, ma com'è che giù due la strada, non è fasciato né macchine né casi, bello grosso, e quindi c'era la strada interrotta, giù girato la macchina, mi sono guidato a casa, già stava piovendo, sono andato per controllare, ma non sono tornato a casa. Ho fatto bene. Non era adeguato di stare in campagna. Meno male non ho fatto male niente a nessuno con l'altro, ho fatto danno. Quindi vabbè, vedo gli assunti. In campagna pure sì, via. Fare un punto. No, già ne ho legna. Non mi metto calipo. Cosa? Questo è stato. Camioncino. E no, ma già non mi fondo, vai. Non 58 direttamente, cancello elettrico, apro, metto la macchina sotto e c'è la veranda, e apro e trovo casa, non è che, però non si poteva passare, per stare a aspettare gli allondi, ti ha detto beh, ciao, arrivederci, volevo andarci stasera ed è ancora peggio, adesso domani mattina vediamo, se è tempo bello ci vado domani mattina, se no si arrangiani. E beh, brutto buco, sempre che tu grazie di applicazioni, sì, per carità. Sì, guarda, stamattina sono andato, mi sono fatto una bella passeggiata. Prima discesa mi si è pigliato un pochino di vento e pioggia. Dopodiché ritorno mi sono proprio bagnato tutto il culo. Sono arrivato al bar, mi sono seduto perché avevo la faccia in terra, tutti i pantaloni bagnati, da sopra a sotto. Mi sono bevuto una birra veloce per scaldarmi, se no sei rimasto congelato, ti giuro, non si può neanche prendere una mattina, non solo l'altra. Qua al bar del coso, mai mi è successa una cosa del genere, qua, ti giuro. A scendere, a salire, con l'ombrello, nulla, non c'era niente da fare. E si piegava tutta l'acqua addosso. Ecco la birra, mi scaldava, avevo già deciso la birra, i pantaloni. Ci vuole una roba calda lì, anche quella birra. Lui, ho fatto una mangiata di fave a pranzo, ma finta che lo so, non mi ha fatto venire fra. Due piatti di fave con tutta la... le verdure, con salsiccione grosso, salsiccia, ma ti dico, una bella mangiata, infatti stanotte non c'ero, è avanzato un pochino, perché mia figlia se le voleva, ho detto no, la vedremo, se continuo a mangiarmelo io, non me li pago a domani, ma sono stato bene, mi, la verità, ho bevuto due bicchieri di vino, mi sono bruciato di vano, ma io ti metto il giorno, come fammi, mi sono svegliato. Una bella facciata, poi una bella bevettina di vino e via. Qui la mani è più come un fuoco, e poi si lamenta che si drome. No, è che... però... non lo sei così. Ho mangiato bene già, ciao, buonasera. Mangiato bene veramente, buonissime, buone. Non fa la tua settimana in campagna, ambo la favata, non già ti raccordo invece. Non vedo come te lo bevo. Allora, ognuno se l'ha fatta a casa sua. Io l'ho divisa con quello di sotto, che è proprio il mio vicino, e via. Sono di lusso. Si sciude, si arrazza di freddo vento, avanti già. Io mi ricordo, buonasera a tutti, dai. Io mi ricordo mamma quando la faceva il giorno dopo minestrina. Ma fa mia moglie, cioè, vabbè, io perché voglio anche la carne, io il mercato comprendo quel salsiccione grosso, che sembra salsiccia, la taglia tutta a pezzi, la mette in mezzo, non le voglio grasso, mi hanno detto io. Poi c'erano finocchietti, cavolo verde, sono ben fatta, molto buona. E beh, Antone, quindi ti sei bagnato? Tutto l'uguro, il pantalone, bello della schiena la detta, perché la schiena c'avevo giù botto, ma tutto il culo, i pantaloni davanti e dietro, stamattina me li ho fatti tutti e due a pezzi. Poi mi ha chiamato Giovanna e dice come stai? Come sto? Gli ho detto, tutto bagnato sto, gli ho detto. Ho fatto la spesa, gli ho detto, e ha già preso, gli ho preso un paio di birre, detto, per scaldarsi. E c'è la freddo, ma sono bagnato tutto io, gli ho detto, il culo e anche il pantalone. Scaldarsi a freddo. Sì, vabbè, io ho sentito a te, ma ho sentito anche Gianni sotto che stava parlando quando è mollato. Cos'hai detto già che hai parlato assieme a Antonetto? Ma ha detto, la birra ti rinfresca, non ti scalda. Cazzo, si beve l'estate perché è fresca e tu vieni ti caldi, boh. E caldo di nervi, ma caldici. Se mi dici whisky, è una cosa diversa. Ma anche la birra ti rinfresca. No, forse non ho capito, io ho bevuto la birra calda. calda dalla cassetta, me. Quando te la portano, non dentro al frigo o fuori. Io c'ho abitudine di fare così, grazie a Dio. La mia natura se la tocca in culo, perché ti spacca i denti prima di tutto e ti fa anche sentire male, ti fa un blocco di stomaco, quindi la birra per me se la può toccare in culo quando è fredda. Non ne voglio, qualsiasi sia, ma non ne voglio. A me mi sta, basta la birra di quelle, come si dice, temperatura ambiente, se no manco ne voglio. Questi diversi abbiamo. Io se non è calcarata la birra, la bevo solo d'estate, ma se non è calcarata non mi piace. A me mi piace proprio fresca, se no non mi piace, fa vedere il vomito calda. Beh, avanti, questa è di gusti, avanti, oh, Frank. Marco Lecker. Che sta più breve. Ciao Gian, me l'ha ascoltato. Adesso ho avuto 12 minuti, 3 minuti, ma è tardissimo, ci dice una birra gialla. Non ho capito cosa fa la birra calda. Avanti Giulio, mi è sembrato. Ok, ciao Fra. Ciao Gianni, Claudio e Antonello, nonché Alessio. Tutto bene? No, stavo guardando la partita, primo tempo. Cina 0, Islanda Repubblicana 2, vabbè, lì più epidendi o qua. Avanti, a chi tocca il turno? Allora voglio venire davanti a Alessio, avanti Alessio, come te sei tu che sei infuso il pantalone, ma non è che se ne batta addosso per caso? Magari, io dicevo magari. Quando sono sceso e quando sono salito davvero calo felice, un'acqua, un vento, tutto in pieno, i pantaloni da dietro eppure anche c'è in pratica, e dall'altra parte davanti, quindi sono arrivato al mar, gli ho detto guarda dammi una birra che per un lavuglio. Mi sono piaciuto io, ho detto, non riesco manco a tenere in mano, ho detto, il bicchiere, figurati tu, l'acqua fredda, 4 gradi che c'erano fuori, e secondo te quanto vuoi che ci sia in una mano? Un grado, quel minimo. Ho preso, ho aspettato, mi sono venuta piano, poi sono sentito Giampiero, in pratica, ho pulito, ho fatto quello che dovevo fare, diceva la Giuseppe che arriva alle 3:30 dalla pizzeria, e quindi a un certo punto piano mi sono scaldato. Adesso me lo lascio bene, ma stamattina tutti i pantaloni bagnati, davanti, dietro, che mi sono fatto una fotografia, se non l'avrei fatta vedere, tutto bagnato, tutti i pantaloni, come se mi avessi fatto la doccia. Deve essere stato l'effetto della birra stamattina, Antonio. È quello, si è bagnato il pantalone per quel motivo lì. Avanti qua. Magari. Poi ci ha bevuto la birra calda per riscaldarsi. Comunque manco il whisky riscalda, il whisky brucia, non riscalda. Brucia. Detto dai dottori e non da me. Guarda che la birra congelata col bicchiere, cioè la birra ghiacciata col bicchiere congelato la bevi tu, pensate ti rassegno a te, vedrai tu, qualche giorno. Io invece la bevo normale, la bevo a temperatura ambiente, non mi fido più io, mi ha fregato una volta a me, tanti anni fa con il CB, cioè soprattutto la CB, e c'era quello di San Giovanni. Lo sai che lui era mezzo sbronzo, poi a qual vita sai cosa ha fatto? E io ho detto, va, ti accompagno io. E io, imbecille, cosa ho fatto? Ho preso una pizzetta calda, me la sono bevuta con la birra ghiacciata da mare su, alla beghiera, lo sai, in moto. Sono caduto in terra, ho fatto 10-20 metri, e è toccato accompagnare a lui, lo sai. Ho lasciato la moto in garage, e mi ha accompagnato lui, quindi non era scherzare, purtroppo così. A te ti piace ghiacciata la roba, prima o poi dai, ti lascia a segno la birra, te lo dico io, se bevi roba ghiacciata che magari mangi qualcosa di caldo o di bollente, come è successo a me, tipo pizza. 7, cosa del genere. Quindi non mi fido più e non me ne frega più niente. La birra io se la bevo la birra. Cazzo di me fare qualcosa. Se Claudio già lo sa. Se ghiacciata la lascio sventiare e se no non la bevo nemmeno. Sai qual è la differenza tra me e te? Che io non sono un grande bevitore, birra ne bevo un bicchiere con la pizza proprio quando ogni morte di ogni pappa. Non sono un grande bevitore come te, tu bevi molto, quindi magari ti devi anche regolare col fatto che sia caldo o freddo, ma io per un bicchiere che ne bevo lo voglio sentire fresco, capito? E quello è il problema. Vabbè, quando vuole proviamo già in questi giorni. Qual è il problema? Vediamo qual è la differenza. Io la bevo normale, tu la bevi ghiacciata, con la pizza calda, tipo tutto soccorso mica a me. Capito? Quindi a un certo punto, quando vuoi provare, non ho problemi. Usciamo e ci divertiamo. Tutto lì. Non è che ti sto dicendo che per forza devo avere ragione io. Prima di adesso, siccome sei grosso, in pratica la roba ghiacciata la sopporti di più. Sembra così, come una volta, come lo sopportavo io, ma adesso ormai le cose sono cambiate. Io a me sempre presenta una bella ghiacciata, quella addirittura quello come fanno qua. Posso dire, quel bicchiere ghiacciato nel freezer, stai tranquillo che non lo bevi, te lo dico io. Perché se sentite che crepa, se stai bevendo, cioè se stai mangiando qualcosa di caldo. Tu c'hai lo stomaco buono, meglio con te. Io c'ho lo stomaco purtroppo che è mai già rovinato, quindi a un certo punto anch'io facevo così. Pazienza. In questi giorni che siamo in pizzeria, tu ti bevi la birra ghiacciata e bevo la birra a temperatura ambiente, perché se no mai come voglio. E poi, ognuno si beve la sua, non succede niente, non è problema. Guarda, amici, io ci dai notte e ho bevuto la birra fresca, perché abbiamo mangiato e ho bevuto la birra fresca, non mi ha fatto più nulla. È una questione di abitudini, di cose. Io per dire l'acqua la bevo sempre fresca anche in inverno. Avanti giù. Ok. Vabbè. Ognuno ha le sue abitudini, dunque va bene così. A me mi va bene non berne, e dunque per cui va benissimo così. Io stavo guardando la partita io. Poc'anzi, avanti Franco, buonasera. Certo. E poi la birra ghiacciata non serve a niente, non serve, perché voglio dire niente da poco. La birra pure fresca e basta, non ghiacciata. A lei ha detto di avere ghiacciata, per carità. Avanti qua. Non so che amante la vita io bevo solo vino e basta. Non mi piace la birra, manco l'estate. Io quando vado a mangiare la pizza bevo il vino, le fettine quelle piccoline, ci metto mezza gazzoggia dentro ed è più sano il birra. Vabbè, lui è a gusti, ognuno fa quello che vuole, lui è amante la birra, la beve sempre e quindi è chiaro che è così. Vabbè, ok, che sciore, tu hai un vento no che allucinante. Scendo giù, poi salgo su direttamente a controllare se si attacca qualche tirante, quasi danno oggi, ma raffiche forti ci sono qua, Ma c'è i pompieri da cosa stasera, alle 2:30, 2:30 e 3, dove c'è la palazzina del Ministero del Tesoro. Non sono usciti per niente, sono rimasti lì più di 1:30. Perché ci sono quei vetri che sono tutti a rischio con la palazzina, se non fanno manutenzione, hai visto già cosa è successo, che ne era caduto quel cartello, è un pericolo questa palazzina, ma com'è del Ministero del Tesoro, ciu ciu, ma la manutenzione fate, ne prendendo tutti i vetri, ne prendendo questa palazzina. No, io stavo meglio da Tagliani, poi ho fatto una piazza di campagna, però c'era la strada bloccata lì alla salita di Monteoro, ne è caduto un albero, c'era il vigile del fuoco, la vigile urbana, e quindi a girare mi sono buttato da casa. Tanto stavo lì a aspettare a fare che cosa. Vabbè, è il tempo brutto ragazzi, tempo brutto, io ho acceso le V e le U, sono due ripetitori spenti, o non c'è luce o è successo qualcosa, non lo so. Uno è quello di Ittiri, l'altro è quello di Monterrase, ma sicuramente a Monterrase mancata luce. È mancata luce perché non sono a telecontrollo, quindi sicuramente mancata luce. Vabbè, avanti i giatti. Io fra la birra la bevo fresca, non ghiacciata. Calcarata nel senso che ve la fresca, non ghiacciata, ghiacciata non piaceva anche a me. Fresca è buona l'estate. E vabbè dai. Speriamo che passi, aveva messo neve a bassa quota, anche a 200 metri, infatti pensavo che nevicasse. Ieri notte c'erano 4 gradi, ma poi deve essere scesa la temperatura. Un attimo che io salgo sui Massarra, voglio assicurarmi che sia tutto a posto, già torno subito, riprendi Franco. Anche qua c'è un movimento, vento e pioggia, sempre tutta la vita andava, non ha caimato un secondo via. Sì, perché è così già, solo fresca la puoi bere, non ghiacciata come dice Antonello. Avanti Giulio. Ok, so. Sì, oggi c'è molto molto vento, ma molto. Io stamattina sono uscito un attimo per andare a tirare il pane, guarda, ho dovuto, stavo piovigginando, e ero con l'ombrello, ma a distanza da casa 200 metri, non di più, e ho dovuto chiudere perché non era possibile tenere l'ombrello aperto. Purtroppo poi con la pioggia così quasi continua, fa qualche piccolo intervallo, però poi il vento si attraversa e dà fastidio molto. Non so se è il vecchio, se è il maestrale, boh, non lo so, lo so che è molto forte. Comunque il meteo l'aveva annunciato, che ci sarebbe stato una specie di ciclone in giro, per cui se, anche qua magari non ha fatto un granché, chissà quanto l'hanno fatto nel resto d'Italia, centro Italia. Ah, guarda, non è. E bene, vicino a casa, sono tutti i cassonetti girati. E non di lambe, figurati. Io sono là, intanto dentro al bar, mi sono preso una birra da, non da dentro la frigo, da fuori, figurati. Perché io birra ghiacciata non la sopporto. Ma c'è gente che vuole la birra col ghiaccio e anche fredda, quindi a me non mi piace di quella. Che la vuole bere, la beva e poi si mangerà al limite qualcosa con lo stomaco a un certo punto. Prima lo stomaco ce l'ho messo male, perché ho avuto già esperienza quando salivo su da Maglio all'alberghiero. C'era gente che si beveva la birra col ghiaccio, col coso, congelata, con la granita, eccetera, eccetera. Hai capito? Il discorso è quello. Mai più. E infatti io la bevo così. Lascio aspettare piano piano e poi vado e me la bevo, non me la fotti nulla. Magari non sta portando, se ne vuole andare, vai dimmi, la bella me la bevo piano piano, e faccio così. Poi un secondo me l'ho fatto un messaggio sul telefonino, 2 minuti, ti richiamo dopo. Comunque io stamattina ho controllato l'antenna da casa della festa e devo dire che oscillava almeno al 35% di inclinazione. Proprio, però diciamo che già era intera, ancora adesso grazie a Dio già è intera. Però già l'avevo riportata appunto con quel tubo da elettricista, quel tubo di plastica da impianti elettrici. E dunque già vedo che regge. E oggi è forte, non me lo ricordo, un vento così forte, perlomeno qua in questa zona. Boh, no, sì, ma fortissimo, fortissimo, anche qua. Anche qua, infatti ho sentito, qui adesso ho sentito il rumore di... Non è stato la carro radiale. Sai che mi metto un giubbotto, che esco fuori. Arrapiche, qua è arrapiche, cavolo. Quando hai certe arrapiche in vento non riuscirà. Ma qua ci tocca, qua è tutto, sono libero io, sono in alto, non so. E mi tocca un me. Ed è maestrale questo qua, non è altro tipo di vento. Se vedi come c'è il mare stamattina, io sono andato alla camera per mare, che il mare a Plattamona era buco, si è incazzatissimo, era tutto schiuma bianca, tutto onde allucinante. Me lo immagino. Da qua non sono uscito fuori a vederlo, perché se esco fuori è come che sia al mare, lo vedo chiaro chiaro. E prendi tu un attimino che esco fuori in terrazza. Ok, fra. Sì, fra, già così è, il vento oggi è fortissimo, chissà quanto danno ha fatto e sta facendo. Ma comunque speriamo bene. Chissà quanti alberi ha buttato giù anche. Io tante volte passo qui, anche a Santa Rita, le colline si stanno, e vedo tutte le radici fuori, praticamente scoperchiate dalla terra, magari la radice è in profondità e non succede niente, però io quando li vedo questa cazzo, ma questi alberi, siccome una volta andiamo a Pasqua, di tutto dove c'è la farmacia lì, all'angolo di via Gabriele Annunzio, mi sembra che sia quella, sì. E lì io ero fermo lì chiacchierando con una persona, a un certo momento ho visto l'albero che c'è dove lì, ragazza, e ha invaso tutta la strada, ha invaso quell'albero che c'era lì dove c'era l'autoscuola, c'è la farmacia anche vicino. Si era rovesciato, un pienissimo giorno, tra le 11 del mattino. Perché tu immaginati se cadeva sotto qualche macchina, magari che stava attraversando, avrebbe anche ammazzato l'autista. Antonello. Comprendevo che Antonello sta leggendo il messaggio, quello che stavo dicendo, che praticamente quegli alberi che tu vedi con le radici fuori hanno mancata di terra, quello lì praticamente le radici, quelle più forti sono quelle che rimangono in superficie, poi le altre sono le ramificazioni che sono più fine. Quindi cosa succede? Quando sono questi venti qua, le radici, quelle forti che sono fuori dalla terra, non tengono, e quelle fine sono più deboli, quindi si spettano subito come viene il vento, capite? Infatti tante volte ne ho parlato anche con Antonello, no? Tanto lei, tante volte ci sediamo lì dove c'è il mocca, no? Ho visto le radici che sono la maggior parte fuori, ma insomma quando mai non possono riempire l'aiuola, riempire almeno di terra, ragazzi, da così sostiene un po', perché tutte le radici che sono fuori, c'è un albero che ha un fusto, ragazzi, che sta dando, almeno, non dico molto, ma almeno 70-80 centimetri di albero, quell'albero sarà come tronco. E se si dovesse a quello, ne fai del danno. E lì ci sono le tavoline, eccetera, no? Tutti i piedi, tu immagini, vabbè, che quando c'è così il vento non succede nessuno, però non si sa mai, anche se c'è un vento potrebbe cadere alle volte, quando l'albero non è finito bene. Te lo ricordi quando avevano riparato il viale lì, in Cotovico, che li avevano tutti quanti legati gli altri, prima che si fortificassero bene al terreno, perché avevano fatto un macello, avevano fatto la botta, te lo ricordi? Sì, me lo ricordo, stavano scavate cose, magari scavando li demolivano le radici e cose, sì, me lo ricordo che li avevano tutti quanti rinforzati per non farli cadere. Purtroppo la natura quando si ribella non c'è Cristo che valga. Quando si ribella la natura è più forte di noi. Poi giù. Sei rientrato? Ok, fra. Certo, già lo credo. Ma infatti poi lì, al viale lì l'avevano riportata, avevano messo, mi sembra, una griglia in ferro anche, a livello di pavimento. Forse per sostenere bene, non lo so, saranno murate quelle griglie di ferro che ci sono. E avanti fra. Quello che serve per far uscire le radici fuori. Avanti. Certo. Pensavo che era quella che era radiale, invece era tutto vicino di acciaio che ci avevo appoggiato al muro. Che è caduto per terra. Ma ci sono tutti i radiali. Avanti già. E io trecce li ho mai. Come la bombera di gioco. Perché il vento, secondo me, poi sono vuoti, sono, anche lì sono vuoti. E il vento, secondo che vento è, si ripiega, però lui, quando si rotola vuol dire che si è seduto qualche piccione, qualcosa, qualche uccello grande, capito? E ce l'ha appena appena piegato. No, ma io non ce li ho più vuoti, io li avevo messi, quelli pieni avevo messi. Li avevo fatti il buco, avevo messo il burrone passante per tenere di più. E in più li avevo messo con la lenta per grunghi, per tenerli. Beh, facendo tutto lo stesso. Se tu lì c'hai cornacchie e queste cose qua è un casino, io qua ce li avevo e ho cominciato a carabina, ma già fa duro, bui, e da bui addirittura venivano, si imparavano, si mettevano in, quella, in quel palazzo che c'è qua di fronte, ma qua non ci venivano, a dire questo, imparavano la lezione. Già lo posso fare anche io, ma il fatto che devo salire dal palazzo con la carabina, non come la gabinetta. C'è anche il gruppo ottico io, quindi non c'è problema, la mira si prende bene. Un gruppo ottico no, sanno che farai fare. Ti abiti la pubblicina a fare, ti avanti giù. Ok. Ma i radiali tuoi sono sottili però, Gianni, sì, erano pieni come stai dicendo tu, però erano sottili. E guarda che quelli alle volte quando sono pieni se rompono prima me. No, quelli della moto da tubo sono, è un tubo da 10 mm però di diametro. E finché la montagna è buona, finché l'alluminio è buono, che non è corroso, non credo che riesca a rompere i radiali. Magari a fischiare fischiano, fa un sacco di nuvolacci, questo sì. Però io dico che strutturalmente la mantova turbo è ben costruita. L'unico problema è il discorso del coso, del fatto che quando è, anche non è controcircuitata, quando si muove si stacca magari dal contatto e non è più controcircuitata. Però meccanicamente per me è un'ottima antenna, secondo me io la penso così. Vediamo se è diventato Claudio. No, Claudio è a questa antenna. Avanti, Antonetti, sì, è diventato, sì. Io i radiali ce li ho come erano originali, la stessa grossetta, li ho infilati dove c'erano infilati quelli originali. Solo che li ho messi, prima li ho messi vuoti, me li aspettate, poi li ho messi pieni, adesso se mi viene in mente ancora mi rimetto, ma se no li lascio uscire tutti quanti e esco solo con lo stile. Sì, ma sono sottili, sì, d'accordo, pieni, ma sono sottili, quasi millimetri sono, o quei radiali di Gianni, lo sono da 10 mm, quelli della manta batturba, un tubo da 10 mm di diametro, per cui reggono per quel motivo lì. Lo sanno che ci sono più sottili quelli, non ho fatto il buco per mettere il bullone passante, quindi la sottigliata radiale si aspettano sempre lì, dove praticamente entrava il bullone, perché ha sottigliato facendo il buco, ha sottigliato il coso del radiale, quindi lì rimane più debole e si spezza. Ma se trovo un modo di farmi la filettatura e mettere la filettatura, lo vedi che non esci di più. No, perché il sistema che è sbagliato lì, Gianni, lì è sbagliato il sistema, perché se il bullone entra nel radiale è ovvio che lì è debole, anche se è grosso come il pezzone, solo è debole perché c'è poca sostanza. Mentre invece la nostra battuta è fissata sul piatto, tra il piatto e la carrozza, ed è fissata dai cavallotti che ci sono, dai. E per cui non è fatto il coso, come si dice, il tubo. E quello, io mi ricordo che è così, tu così sei di così, fra. Sì, sì, sì, sì. me lo sto guardando, mi sto guardando un video della motovattubo, a vedere quella storia là. Ma la motovattubo, mi hanno detto tutti che è difettosa, entra acqua, non so, bugosa. Tutti mi hanno detto che era meglio la motovattubo e la motovattubo. Io dico che sono sotto, è quello che dice la gente. Per me la motovattubo è eccezionale, meccanicamente. Te lo sto dicendo, l'unico problema della motovattubo è che dopo un certo periodo non è più cortocircuitata, perché l'aggancio della bobina non è delle regioni. Però funziona ugualmente, anche se non è cortocircuitata, funziona alla grande, la resa è sempre quella, la distensione, la trasmissione è sempre quella. L'unico problema è quello, che tu vai a controllare con test il PL e non è più cortocircuitato. Ecco qual era il problema. No, meccanicamente straordinaria, questo te lo posso garantire. Tu basta pensare che ha lo stilo centrale, il pezzo di basso, quello che c'è attaccato alla base, è roba di 4 cm e mezzo di diametro. Cosa gli vuoi dire tu a un'azienda che ha, e poi andando man mano che salgono gli elementi diminuiscono, però sono sempre fortissimi, è fortissima, guarda, come antenna. Io la penso così, vai fra. Sarà che la base è uguale alla mantova 1 e alla mantova 5, sono tutte e tre uguali, cambia solo il piatto che si allarga per ricevere i radiali. Io ce l'ho il piantone, perché il resto l'ho tutto buttato via, che si è fatto a pezzi, però è uguale, non cambia niente, il diametro è quello, è da 45. Da 45 a 45 lo stesso? Sì, sono tutte e tre uguali, non cambia niente, mantova 1, mantova 5 e mantova turbo. Il piantone di innesto del primo elemento è uguale, sono tutti uguali, usi le stesse fascette, usi tutto uguale, cambia solo il piatto che si allarga per ricevere i radiali, che lì se quel piatto l'avessero fatto un po' meglio sicuramente avrebbe durato di più, perché quel sistema che è sbagliato, io l'ho avuta e mi è durata un anno e mezzo, capito? Alla fine ho detto non mi piglio più, perché la volevo riprendere, un'ultima antenna, la volevo riprendere, poi invece ho trovato la mantova 1 e ho ripreso la mantova 1, però è un'ottima antenna, ma c'è quel sistema dei radiali che è una grandissima porcheria, potevano farlo molto ma molto meglio. Claudio, ehi. Qual è la parte dove si attacca il telo? È quella che si arrugginisce tutto? Allora, a me quella mi si è marcita, io pensavo che erano radiali che si rompessero, assolutamente, dove entrano quei radiali che c'è il piatto, il doppio praticamente piatto di sostegno dove poi entrano le viti passanti, la parte lì si è tutta arrugginita in un anno e mezzo, nonostante ci fosse la vasellina, si è tutta arrugginita, e i radiali non avevano più sostegno, bastava che si appoggiasse un passero, non un corvo, un passero, e le scendevano i radiali. Avevo cercato di rimediarla, fare un sistema di ancoraggio fatto meglio, ma l'ho fatto fare al tornio, ma no, non si via nuda. Alla fine mi ha rotto le scatole, ne l'ho tolta, tutti gli elementi li avevo dati a Fabrizio per farsi una verticale, capito, che ne avevo due parti di elementi, ne avevo, e basta. Adesso disco uno di scorta me l'aveva dato Franco, piantone di Mantova 1, che ce l'ho, e un altro di piantone Mantova 1, sempre già pronto a mettere il radiali nel caso si dovesse succedere qualcosa, me l'aveva dato fra Gianfranco. Quindi ho due di piantoni di Mantova 1, ma di Mantova turbo non avrà già, comprerà mai più. E radiali non ne hai, fra? No, i radiali uso, ho quelli in alluminio, ho recuperato della Mantova turbo, quelli ce li ho in alluminio con i tappini sui originali, quelli ce li ho, ma in fibra no, in fibra non me ne ha dato Franco mi ha dato solo il piantone, anche Gianfranco. Io in alluminio ce li ho, e ne ho messi in alluminio con i pini, non te lo ricordi? Ne ho messi i pini, a me non esisce di lui, vabbè, ma tanto va bene lo stesso, mi c'è un euro di stazionari che la vena fa. Vabbè, ma i radiali servono come piano di massa, non è che... Ciao, se ne voi sono vuoti e magari a tempo bello si abbassa e si mettono ovviamente radiali vuoti, leggeri, e sono nuovi perché li ho tutti dalla Mantova, capito? Però il sistema di ancoraggio l'esercizio di quel sistema lì non va bene. Se fossero a innesto, come sono quelli, sono con degli agganci in ottone o qualche riduzione eccetera, che entrano dentro come è fatta la mantova 1 o la mantova 5, e chi se non si attaccano, no? Quelli non si rompono. Ma il sistema che c'è della turbo è veramente una porcheria, potevano farla molto molto meglio, perché è un'antenna eccezionale come ricezione e come trasmissione, però è il sistema che è sbagliato. Vai Giulio. Ok, boh. A me la mantova turbo strutturalmente mi piace, mi ripeto, l'unico problema che io ci ritrovo è questo fatto che ogni tanto, anche se la messa a posto, il fatto che non sia controciclicata me la fastidio, anche se funziona ugualmente lo stesso l'antenna, non è che non funziona, funziona benissimo, ma agli effetti della corrente elettrostatica potrebbe essere un problema. Ma ripeto, per me il fatto di meccanica, cioè strutturalmente è un'ottima antenna, io il piatto sono lucido lucido, eppure l'ho tenuta un paio d'anni di attacca, forse anche di più di un paio, forse anche tre, eppure non si è raggiunto per niente, perché era zingato col piatto, non era un semplice piatto di ferro, la mia era zingata, non è che si arrugginisce così, certo se fosse stato in acciaio inossidabile sarebbe stata ancora meglio. L'unico problema qual è? Che io nell'antenna gli avevo sostituito le facette con il casingo degli elementi, quindi sì, perché gli avevo messi in acciaio inossidabile, ma dal primissimo momento però, perché quelli là erano di lamierino, e infatti ho messo la calamita e attaccava, se attacca vuol dire non è acciaio inossidabile. Li ho sostituiti e li ho smontati tranquillamente, non ci sono problemi. Vabbè, avanti fra. Certo. Sì, ma è così, l'alluminio zingato quello lì, non è ferro. Pure ce l'ho, io ce l'ho lucida lucida lo stesso, perché da poco l'avevo scesa l'antenna, l'ho controllata, da quanta, ed è come il giorno che l'ho piazzata. Si finisce un po' al coso, alla temperatura e tutto, però è sempre, per me va benissimo, a parte quel difetto che ha detto Giulio poco fa, che si stacca sempre quel filo di controcircuitato. Niente, ma quello si può anche rimediare, perché al posto di saldarmi quello direttamente, uno più morbido, uno che anche se si muove l'antenna non gli fa niente. Ma secondo te un'antenna del genere, con tutte le caratteristiche tecniche che può avere la mantova, io l'ho tenuta 15 anni sul tetto, la mantova 1, poi ho messo la mantova 5, non ho mai sentito parlare di cavetto che si stacchi, è mai possibile che la mantova turbo, l'unico difetto che ha, si stacca questo cavetto dove c'è il PL, ma è assurdo. Poi io non ho detto la piastra, Franco, la piastra può anche andar bene, quando tu metti i radiali, innesti i radiali in quella piastra, ci sono dei cavallotti, ok, che poi tu stringi con le viti passanti, quella parte lì si arrugginisce a chi è ferro, solo la piastra è zingata, scusando il termine, a culo di scimmia, perché è zingata proprio, di chi si zinga tu il tracovarattu, ok, quella parte lì poteva essere migliorata, nel senso che bastava fare una contropiastra in acciaio inossidabile leggero, lamierino in acciaio, a chiudere la parte dei radiali con i cavallotti tutti in acciaio inossidabile, mentre invece quegli innesti dei cavallotti dei radiali, perché io ce li ho, di volta adesso in mansarda, mi sono sceso poco fa, se non te l'avrei fatta, di volta a volta, tre volte mi dici, sono completamente marci, cioè sono tutti ossidati marci, non servono a niente, quindi il sostegno, l'innesto che del radiale non ha più tenuta, capito dove è il problema? E poi è assurdo che un'antenna di quel costo si possa attaccare questo cavo. La 1 e la 5 sono le migliori in assoluto, non si discute, per estetica, per funzionamento, per durata, per tutto, perché i radiali sono in fibra di vetro. Sì, è vero che con l'andare del tempo la fibra di vetro inizia ad andarsene per i fatti suoi, capito? Però se tu a quella fibra le fai il trattamento, alla fibra di vetro le fai un trattamento come ho fatto io, ti dura un'eternità, perché c'è una vernice trasparente che praticamente per proprio la fibra di vetro tu la passi leggermente con uno straccio umido nei radiali, la lasci asciugare e poi li piatti e tu vedi i radiali che sono in fibra di vetro si diventano lucidi e non si stacca la fibra di vetro, è proprio una colla per tenere la fibra, che la usavamo anche noi a lavoro sulle cerniere in fibra, capito? Quindi secondo me la migliore antenna è la 1 e la 5, niente da dire, la Mantova Turbo però potevano farla meglio, potevano rifinirla meglio, vai già. Già mi si deve essere spostato. Sì, guarda, non metto in discussione la Mantova 5 e la Mantova 1, perché ne ho avute, ho avuto la Mantova 1, la Mantova 5, ne ho avuto tutte e due, ma non una, ne ho avuto due e due, ne ho consumato di quelle. E ti dico una cosa, che quella là erano migliori, molto migliori della Mantova Turbo, però in prestazioni la Mantova Turbo non se ne scende dalla Mantova 5 alla Mantova 1, c'ha solo quel difetto, punto, c'ha solo quel difetto, si sono cambiati, i due si sono cambiati e basta. Avanti Giulio. Ok, sì, indubbiamente che poteva essere migliorata, non ci sono dubbi, questo è vero, però si sa, tutto è migliorato nella vita, sempre quello. E tutto quello che si costruisce c'è sempre modo di migliorarlo. E quelli hanno pensato di farlo così. Ripeto, l'unico problema che io gli ho riscontrato è proprio quello, c'è questa specie di avvolgimento, che è un avvolgimento nel vero senso della parola, perché è fatto con un filo o da motori, da avvolgimento di motori praticamente, quindi è un filo grosso, sarà un millimetro o mezzo, una cosa così di spessore, rigido, ed è avvolto su un tubo, l'hanno formato una bobina, questa bobina poi va ad attaccarsi alla parte della massa, va ad attaccarsi tramite un incavo che c'è nel tronco dell'antenna, che anziché essere fissata con una vite, con una saldatura, eccetera, no, è solamente entrato dentro perché è preciso l'incastro, ha dello spessore del filo, e poi con un cacciavite è stato ribattuto in modo che quando tu tocchi l'alluminio lo ribatti in tre o quattro porti, è stato ribattuto, e cosa fai? Non fai altro che allargarti l'alluminio, questo alluminio viene in contatto diretto con questa bobina, però o perché filtra magari un po' d'acqua, questo non lo so, o perché il movimento del vento che non si muove lo filo, però se lo forza o se lo allarga, questo incavo in un certo momento diventa lento, sicché non c'è più un contatto perfetto, non c'è. Ecco qual è il problema, perché manca la controcircuitazione, sono tutto lì, non niente di particolare, però come antenna è strutturata per me va benissimo. Sì, è vero, poteva essere anche migliore, fatta in maniera ancora migliore, certo, beh, tutto nella vita è supportato anche al costo di una antenna, di qualsiasi oggetto. Io penso così, avanti di qua. Sì, bisogna abbassare la leva. Sì, ma infatti, allora se parliamo di supporto di costo, che ha un costo di 130 euro la Mantova Turbo, rispetto alla Mantova 1 e alla Mantova 5 costano 110, 115, una cosa del genere, ok? Allora, il sistema appunto che hai detto tu, come mai alla Mantova 1 e alla 5, allora intanto il cavo della 1 e della 5 sono da 0,8 mm quadri e sono praticamente resinati, chiamiamolo così perché fanno tutto il giro nella bobina resinata, poi entra il cavo dentro la alluminio perché c'è il foro e va a collegarsi col centrale del PL. Hai capito? Quindi quello è un bellissimo lavoro, quello lì è una cosa brutta da vedere, perché tu non mi puoi mettere un cavo che sai che la funzione è quella di cortocircuitare l'antenna e cosa fai? Me lo metti dentro un foro e me lo ribatti? No, o lo saldi o le fai un occhiello con una vite passante, oppure me lo fai arrivare nella sede che deve arrivare. È lì il problema, capito Giulio? È fatta male per quello. Eppure la stessa casa costruttrice, perché la 1 e la 5 hanno adottato un sistema che non si è, a me non mi si è mai staccato assolutamente, nel modo più assoluto. Ne ho cambiato di posti, presa in piedi, tolta dal tubo, messa in terra, tornata a me, ne ho aggiungato dei vinili con una mantola senza mai smontarla. Tu immaginati che io manco l'ho smontata, ne ho tolto il centrale, l'ultimo pezzo, quando l'ho portata da via Pasqua, l'ho portata intera, poi a casa me la sono tutta smontata, pulita e basta, perché le fascette che avevo messo io sono della Wurt ancora oggi, e quindi sono fascette buone, dove tu con la chiavettina sola da 6 le smonti, le pulisci e le torni a piazzare, capito? Quindi è lì il problema di questa antenna, che è stata costruita dalla stessa casa costruttrice della 1 e della 5, però hanno lasciato un po' indietro questo sistema, e non va bene, non va assolutamente bene per conto mio. Per il resto l'antenna è perfetta, perché hanno la stessa resa di banda, hanno la stessa caratura, hanno la stessa potenza. Se tu le provi, guarda, io le ho avute tutte e due assieme, la turbo e la 5, commutavo, il segnale non cambiava assolutamente ricezione, assolutamente, e l'ho usata anche in 10 metri a proiezione verticale, proprio per vedere le differenze. Non c'è nessuna differenza, sono due antenne identiche, l'unica differenza che ha è che è radiale in alluminio, ha più piano di massa e basta. E questa stronzata che hanno fatto in questo accorgimento, vai Gianni, ci sei? Sì, dai, sono rientrato, avevo il telefono, ho voluto non avvisarvi perché mi hanno chiamato di colpo, quindi non vi ho avvisato che stavate parlando. Sì, bene o male, sono della stessa sede tutte quante, sono tutte quante della stessa casa, non della stessa sede, della stessa casa, quindi bene o male si assomigliano tutte. Io, a me, me l'aveva fatto Fabrizio, la parte della base dove si attacca il PL, me l'aveva fatta in alluminio, perché c'era tutta arrugginita, l'ha fatta attorno, l'ha fatta tutta in alluminio e poi si è attaccato di nuovo in alluminio, sempre la ghiera dove si attacca al PL. Ma io quella, infatti, che Fabrizio non c'è, se no te lo diceva lui, Fabrizio quella parte lì l'ha completamente eliminata, si è preso solo, infatti ha detto prendi anche questo così e fai gli agganci per metterti le calate, perché ha fatto una verticale, 5 bande mi sembra, una verticale, bella, e praticamente ha detto da lì poi ti fai gli agganci per mettere le calate dei radiali, no, dei radiali in filo, tutto arrugginito, era tutto completamente marcio, e quindi l'ha tagliata completamente quella parte lì, ha detto già me la faccio io questo aggancio al torneo in acciaio inossidabile, così ha fatto, ma non ha vergogna con l'antenna fatta in quella maniera, ma ti pare mettere un filo in un foro che sai l'utilizzo che ha, perché serve proprio per circuitare l'antenna, e tu me lo fai passare lì dentro e poi lo ribatti, fa passare tutto, falle fare il giro, le fai un occhiello, ecco, una vite, in modo che lui non si stacchi. Lì Giulio il problema di quell'antenna, per il resto è uguale alla 1 e alla 5, non cambia assolutamente niente, hanno le stesse prestazioni. Quello sì, ma se loro si sono persi forse in questo contatto, di questa bombina si sono persi, chissà in che maniera loro hanno pensato che potesse andare bene, ma invece è più bossata che non va bene, cioè finché la bombina non dice niente eccetera, è sempre perfetta, perché io la controllavo sempre che era contestificata, però poi ci sono stati dei momenti almeno due volte che invece è contestificata non voleva più. Però ripeto, non c'è una piccola partenza precisamente, questo non si dice. È una bobina che è infilata praticamente dentro un troncone di tipo di resina, e poi questa troncosa viene infilata, la calotta viene infilata, e c'è anche lo stilo della il giratore lì. E il genere a corto circuito, c'è cioè chi è attaccata allo stivo, il contatto è allo stivo, e più a questa carota parte poi il contatto. E il contatto si molla, si molla, ecco quello di sotto, perché non è né saldata, né avvitata, nulla, anche perché non si può mettere né una vite, solo se l'avrei messa io una vite, una cosa, oppure ne avrei fatto una saldatura, non si può fare, perché poi non si può infilare più la carota, perché è talmente precisa che anche lo spessore di una cartina di sigaretta non ce la farebbe più a entrare nella carota. Ecco qual è il problema. È fattibilissima la riparazione, però è fattibile solo in quel modo, ripartendo e basta, con un cacciavite a taglio messo di traverso a questo incavo che c'è, le metti, le dai due colpettini con un martello, l'alluminio si allarga e va a pressare questo filo di bobina e lì passa va in contatto, allora è cortocircuitata. Ma si oscilla, questo è un buon coso, o perché si molla, il fatto sta, poi dopo un po' di tempo perde il fatto di essere cortocircuitata. Avanti Franco. Oggi, ma in pratica è dentro un'altra base questo coso, questo filo, è incastrata così solo, non è né salvata né avvitata. No, non è avvitata, non è avvitata, è attaccata alla base, c'è la carota nera, no? Sotto questa carota c'è questo tubo di alluminio, che a sua volta c'è un tubo anche di resina che mantiene tutta la forza dell'antenna, no? La base, ecco, è tirata lì praticamente, e va a collegarsi con questo tubo che poi scende al palo di sostegno, diciamo. Ecco, è lì che è collegata. Però la carota poi non si infilerebbe più, anche se gli fai una minima saldatura, ma forse di poco, non scende più la carota, perché è talmente precisa che se di regina non riesci nemmeno a entrarcela, perché è talmente precisa che è troppo perfetta. C'è che basta un minimo spessore, anche di niente, anche di una cartina di sigaretta, che non riesci più a farla entrare. Ecco qual è il problema. Se no sarebbe stata riparabilissima anche questo discorso del contatto, o con un bulloncino, o con la cosa, ma come te fai? Non è possibile, bisogna inventare un qualcosa di straordinario, ma che cosa però? E quello è il problema, che cosa? Avanti Claudio. No, tocca Gianni, vai già, Gianni però adesso. Di solito QRM è segnale 8, ma voi ci avete segnali alti voi. Sì, fra, è una tronzata in parole povere, perché non si può fare una cosa del genere, perché tu guarda la 1 e la 5, che hanno la stessa in resina, no? Isolatore in resina, però guarda da dove parte il filo, hai visto dove c'è la spirale, che c'è l'occhiello, bulloncino passante, tu occhieli lì, il cavo fa tutto il giro nella bobina, e poi c'è l'isolatore in alluminio e quello va a innestare dentro il piantone. Lì è tutto un pezzo, come dice Giulio, capito? Se tu vai a fare una modifica lì, non ti innesta più, mentre la mantova è fatta diversamente, la mantova 1 e la 5, sono fatte diversamente, perché l'isolatore è staccato dall'innesto del piantone, ecco, solo questo potevano fare, uguale, un sistema simile, e invece si sono sporcati in questo tutto questo agrumolo di cose che non va bene, perché quello si stacca Giulio, sai perché si stacca? Perché non è né occhiellato né saldato, è ribattuto, e tu mi insegni che un ribattino quanto ti può durare? Un anno? Due anni? Un anno e mezzo? Ma poi si stacca, quando la saldatura è fatta bene o quando è occhiellata bene, come la 1 e la 5, non ti si stacca, vai tranquillo che non ti si stacca. E invece non si dovrebbe attaccare, e invece è fatto così, sì, perché c'è questa insalatura, questo incavo, un taglio di segreto, voi immaginati un taglio di segreto, no? Quanto è grosso la fiamma del segreto del ferro, è sottilissimo, ecco questo pezzo di sarà altro che no, un paio di centimetri, ed entra il filo dentro questo incavo. Ecco, allora prendi un cacciavite, lo metti di traverso al taglio, le dai due colpi, essere proprio lì, che a un certo momento, o perché ha forza di muoversi, questo allargamento dell'alluminio o si perde, perché si sa, è un metallo molto tenero, l'alluminio, e muove oggi, muove domani, muove dopo domani, finisce che il contatto lo perde. O perlomeno perché si ossida magari il filo, perché questa parte finale di questa bobina è stata raschiata per poter fare contatto, perché essendo una bobina è proprio un filo isolante, come quelli degli avvolgimenti motori, come le bobine di solito delle radio, ecco, insomma, è un filo così, fuori rigido, è un filo grosso, che sarà un minimo di un millimetro quadro di spessore, forse anche di più, per dire, no? Ecco, però a forza di muoversi, o perché si consuma questa specie di ribattino che si fa con un cacciavite, o perché si ossida, il fatto sta che perde il contatto, ed ecco che lì subentra il discorso problema. Avanti, Franco. Ecco, vabbè, uno deve discutere perché quando non vedi cosa, vabbè, vediamo un po' quando fa bello, lo porto giù e la controllo, la vedo, ma la volta che la vedi, se tu c'è qualcosa da fargli diversamente, quando mai non si riesce a dargli, a fargli la massa, la massa da qualche parte. Io addirittura stavo pensando a una cosa, però non lo so se è fattibile, nel senso che di fare un'asola tutta attorno a questo tubo di alluminio, di fargli un'asola, magari farlo fare da un solumio o qualcosa del genere, in modo da potersi alloggiare un altro pezzo di filo che sia fuori saldato tutto attorno, praticamente fargli una specie di cravatta, perché sennò poi non entra da questa carrozza, il discorso è quello, che non entra più la carrozza se fai il sensore, invece deve essere una cosa che deve essere sempre pari al tubo preciso, non deve sfoggere in una maniera più assoluta, sennò non passa più la carrozza. Ecco qual è il discorso. Comunque già ti mando la fotografia, lo smonto, tanto visto che è smontata la cosa, questa base, la tiro fuori, la carota, la smonto, c'è un bulone traversale che devo togliere per poterla togliere, e poi si sfida, e ti faccio vedere come, già ti mando la fotografia tramite WhatsApp, e poi te ne rendi conto. Va bene, dai, avanti qua. Stavo dicendo, io adesso non me la ricordo, prima di salire a sciogliere a vederla. Ma c'è spazio dall'innesto, praticamente da dove entra il piantone, da dove c'è l'isolatore, c'è spazio appunto per mettergli una cravatta di quelle fini fini, per poterle mettere un occhiello e farle l'aggancio esterno? Non ce n'è spazio, no? Niente, caro, non c'è spazio per poter fare niente, nulla. Sto dicendo che entra preciso e basta una minimissima sfoggenza che non passa più, per cui non è possibile poter fare nemmeno una saldatura. Ecco qual è il discorso. Purtroppo lì si sono presi e loro avrebbero dovuto fare un altro sistema di aggancio di questa bobina, perché in realtà è una bobina, proprio una bobina che non fa altro che prolungare la lunghezza dello filo lungo centrale per poi collegarla direttamente alla massa. Ecco come è una bobina, nello senso della parola. Per cui è quello, il problema è quello, nel modo come si tratta, tutto lì. Però sarebbe fattibilissimo il discorso fargli fare contatto, ma argomenti però, è lì il problema. Andare a dire, la carrozza è appena più larga, ci metti la carrozza dentro e però quello lo puoi saldare, lo puoi fare, nulla la va, è preciso, identico. Sto dicendo che talmente è preciso che nemmeno un guanto nella mano è così preciso, va bene. Avanti, Franco. Ecco, sì. Ma limite, la faccio così, cosa mi piace nulla a tutti. Certo, modulare lo stesso, piace bene lo stesso. Mi ascolta, è bella lo stesso. A appunto, ieri sera è entrato Claudio, è entrato Giuseppe D'Alghero. Ma a me non mi arriva più Giuseppe, io non ho capito perché, non lo so. Non mi arriva, prima mi arrivava basso, poi adesso mi arriva in mezzo al QRM, non capisco quello che dice, prima mi arrivava. Qua arrivava bene, anche a Gianni arrivava bene, anche a me, ha parlato anche con me, e lo ascoltavo bene. Cioè, non era di voce, non è, perché mi sa che ha detto che c'ha problemi. Fra, ho 90, più di 90 anni. Problemi, gli aerobrini. Però mi arrivava molto molto meglio prima, adesso non riesco più a capire quello che dice, il segnale si è abbassato, boh, perché lui ha cambiato l'antenna, capito, una posizione molto particolare per Alghero. E quindi se tu consideri che Valerio mi arriva a 9.20 da Alghero, infatti lo conto, mi arriva a 9.05 liscio. E quando attacca mi arriva a 9.20, quindi lui mi arrivava con l'antenna che aveva prima, mi arrivava a Santiago 7.8, perché è dietro lì Sant'Agostino, e poi quando ha cambiato l'antenna mi arrivava a 5, e poi ha iniziato a calare, non lo so perché, pure non è un problema mio, perché gli altri mi arrivano tutti bene. Vabbè, comunque salutatelo quando lo sentite, perché a me non mi arriva, perlomeno io, l'ultima volta che non riuscivo a copiarlo, non lo so. Come stavo dicendo Giulio, sì, lì basterebbe se dal piantone all'innesto, prima della bobina, anziché piantonarla tutta e farla arrivare sino a fondo, lasciare 5 cm fuori, riuscire a mettere una cravatta di quelle fine o fatta apposta per poter isolare quel filo, sarebbe un lavoro fatto bene, però ti ripeto, bisogna studiarla bene, perché se poi va a massa l'antenna non esce. Non esce. Vabbè, andiamo a vederla, io adesso mi ero uscito un po' che ho fatto, avevo controllato tutto a posto. C'è un po' gli ultimi due tiranti bassi che sono un po' lenti, ma quello è come sta flettendo il carico del vento, poi domani si abbassa, vedo di tirare i due cricchetti e tesare un po' di più, ma non voglio tesare più di tanto perché i tiranti devono lavorare un po' morbidi, se sono troppo tesi possono spezzarsi. Ma raffiche di vento oggi mai non riesce a aprire, manco lo baccone va a baidare. Va bene, comunque rimane il fatto che Giulio, io l'ho usata, l'ho provata, l'ho tenuta per un bel po', dopodiché ne gioca giù di tutti i radiali e il sistema del radiale era quello dei cavallotti che mantengono con la contropiastra. Ecco, lì si sono marciti, il radiale non aveva più tenuta e ne sono faratti. Però a me il cavo non mi si è staccato, assolutamente. E quel sistema io l'ho visto, sì, ribattuto, messo lì in mezzo e basta. Però io l'ho vista un'altra, hai visto dove c'è proprio la spaccatura che va a innestarsi in quel cavo? Lì prima di montarla, col saldatore quello a stagno di vecchia generazione, hanno fatto tutta una colata sopra di stagno e poi l'hanno tutto vulcanizzato lì, Giulio. La saldatura, siccome questo incavo che è talmente basso, è dello stesso il filo praticamente, non è un granché, non si può nemmeno riempire perché non ci sarebbe nemmeno lo stagno dentro, non è semplice, guarda, non è semplice. Per cui, ripeto, se uno fa spessore, finisce che poi non entra più la carrozza. Ecco qual è il problema. Dai, riprendi, fra, rientro subito, rientro, riprendi, fra. Sì, è un bel tubulino. La mia all'inizio l'avevo controllata, era controcircuitata, adesso no. L'ho controllata lì da poco, stavamo parlando con Giulio, l'ho provata e non è controcircuitata. Non è più come prima. Lascia vedere una cosa. Aspetta, appena. Ok. Ecco. però sì, con le mani mentre lo pulisco sempre si sposta quella cosa della partenza. Ehi, driver, lì devi stare attento, lo slider sono, se sono leggeri si spostano sì quando lo pulisci, però conviene sempre tararlo a caldo, lasci stare così già stabilito. E la radio quella fanno così 430-440, quando l'accendi a 50 era e a 50 bar, perché è un'altra conversione, quella diversa, quella del 140 sono diverse, devono prendere il motore prima di scaldarlo. Sì, fra, comunque un sistema si potrebbe trovare, ti ripeto, io non ho avuto quel problema lì che mi sia staccato il cavo, assolutamente. Però la 1 e la 5 sono delle antenne favolose, io ce l'ho 1 e l'ho tolta da via Pascoli, l'ho messa qua, l'ho tutta ripulita, smontata, in alto ho tolto quel cappelletto che c'era, ho messo un tappo di sughero col silicone, perché è meglio che ci sia il tappo di sughero sopra in alto anziché questa cosa o questa vitina che può tirare i fulmini. Per l'acqua tutta vulcanizzata bene, le fascette sono tutte quelle in acciaio inossidabile. E quel piantone che mi avevi dato tu, tutto lucidato, pronto, taratto ed è perfetto a zero di stazionarie, pronto già a innestare, per dire, se voglio fare un'altra antenna è pronto a innestare con le stesse misure della 1 e della 5. Però ti ripeto, la Turbo è un'antenna un po' fatta da Gadda, perché ci sono veramente, hanno lasciato andare questi particolari molto importanti, soprattutto la contropiastra, i cavallotti che innestano a stringere i radiali, un sistema un po' balordo, lì bastava fare un tronchetto come c'ha la 1 e la 5, innesto con le viti sotto per bloccare i radiali, andava molto molto meglio. Invece hanno fatto questa contropiastra che con l'andare del tempo, non oggi, non domani, non dopodomani, ma stai tranquillo che con l'andare del tempo qualche problema te lo crea, perché lì si crea un mare di, soprattutto lì da Temi, un mare di salsedine sotto, di ossido, di cosa, che quei cavallotti che sostengono il radiale disinfrasegheggiano, il radiale non ha più appoggio, è una 1, ribelli tutti. È lì il problema, capito? Io avevo pensato addirittura di rifarli quei cavallotti, fare una cosa fatta bene in officina, allora ero a Porontosa, all'officina Toletana, quindi già mancava chi me lo faceva. Però studiandola bene anche col tornitore mi ha detto, boh, è una cosa, dopo vini, cosa ti tornisco qua, cosa ti faccio? Che, sì, ti posso fare la contropiastra per appoggiare, ma questi cavallotti come ti vai a farli? Se invece dice, boh, io ti faccio un innesto da sopra, no? Che copra tutta la contropiastra, tutta forata, tu i radiali fai entrare lì dentro e poi facciamo la contropiastra da sotto con i bulloni passanti, allora era un bel lavoro. Ha detto, da se sa, a futtidini, non fa più nuda, me la compro nuova, la lampada uomo, e così ho fatto. E ho preso la Mantova 1. Io l'ho cercata, prima di comprare questa, l'ho cercata, la Mantova 1, la Mantova 5, non l'ho trovata da nessuna parte, in lupo. Addirittura un amico camionista di Cagliari mi ha detto dice, non la comprare ancora, dice che guardo a Cagliari se c'è, e manca in danna via me, abbeva un poco, addirittura guardate anche a Orizzano e non la uso, era sempre molto turbo la via. Sì, no, Pesaro non ne aveva, se diceva a Cagliari tu la Pesaro, no, a me me l'ha portata Mario Babbo Natale da Mantova, perché era su in continente per lavoro e doveva rientrare carico, se l'aveva presa lui, mi aveva telefonato, mi ha detto, Mantova la vuoi a 80 euro, prendimela subito immediatamente, me l'aveva portata giù. Infatti ero a Porto Torres e me l'aveva consegnata a Porto Torres, perché voi ci eravamo trovati il giorno dopo allo stabilimento, lui era con Aruni, e me l'aveva portata lui, capito? E anche Michele lo stesso, Michele l'aveva comprata su in continente, se l'aveva fatta portare da un suo amico che faceva appunto quella zona lì, e si era fermato a Mantova e l'aveva comprata lì. Direttamente dallo stabilimento, 80 euro, però poi non ne hanno fatto produzione, non ce n'è stata più, capito? C'erano questi residui di magazzino, perché? Perché hanno fatto la Mantova Turbo, l'altra serie, e quindi la 1 e la 5 non ne hanno fatto più. Però se tu guardi il continente, residui di magazzino, ultimamente ne aveva anche la Media Globe, figurati. e scappa. Eh sì, in effetti è così. Ok, un attimino solo, guarda che c'è uno, mi sembra che sta, vuole entrare. Un attimino che è venuta mia moglie, mi devo vedere la cosa. Ehi, Andre Cardarella. No, no, il segnale è sempre basso. Pone a manetta. Ma io ricevi molto meglio, come mai stai facendo così? Ma dove sei? In FM, banda laterale, lì sì. Sei spostato di frequenza, sì. Giulio, come lo senti a, a Caldarella? Giulio si è allontanato. Gianni? Ah? A me va in FM, non sei spostato, ieri stavi uscendo bene, cosa hai toccato? Non sei in FM? Sempre un attesce. Ok, dai, ma no, è un baracchino buono, non si riesce a gattarlo, un base, qualcosa da mettere lì fisso a 2,20 a 5 metri cristiani. Non so, Lu, io ti sento un bel male. Ti metti come era prima. Claudio. Oh. In FM. Dove in FM? Quello che parla non si capisce in FM. In FM sente bene. Però c'è il baracchino in automatico, non ce ne va in FM, in AM. Ce l'abbiamo fra. Io lo sento un bel male. E Luca, Luca del Monte. Lu, Gianfranco ti ascolta bene in FM. Buh. Adesso come lo senti? Proprio è più calmo. E a vento? Accorto te le scisse calate? Sì, vento deve essere calato perché non lo sento più. Fischiare nella porta. Ma quello da roba fuori. Mi stavo fischiando. Mi fischia in alluminio. Allora, tu silenzio, ovvio. No, sopra è tutto in ordine, sono salito, ma speriamo bene, il foro sta sempre piovendo, vabbè, la pioggia, che ore sono? Neanche le 7, adesso le 7 e mezza porto il cagnone, cioè meglio di chiù, va, meglio di chiù, si va gaggio di tappi, il verro di tappi, però la rottura di balle, l'acqua e i temporali, non si può più, capo, vabbè. Un verro quindi, ma qua già si sta bene, ho 23 gradi. No, è sto parlando di freddo, una volta ci viene no, che è 23, però ora le tue scatole non è che puoi uscire, capito? Non puoi stare in giro come stai d'estate. Perché specialmente quando piove, quando esce quello vento, quello d'acqua esci, gli altri vasi vedi. Abba l'acqua, poche volte ne ho usato ombrello io. Non è che non la temo l'acqua, è più temo tutto il sistema, capito? Che no, poi va nuda, invece rinchiuso a casa. Ma che guba è la primavera soprattutto, a me piace molto la primavera. Da marzo in poi, marzo, aprile, quelle giornate belle che fanno, non c'è molto caldo, quel venticello, quel tepore bello lì. Anche se c'è una magliettina, senza giubbotto, puoi muoverti, ma così, cosa fai? Chiamava io la guffia, i guanti, i giubbotto pesanti, la giumma esce pure i cavalli, ma dove vuoi andare? Capo, devi che arriva subito, non ti preoccupare. Vedrai che fra un po' siamo di nuovo d'estate. Vabbè, certo, già passa. Gennaio se n'è già andato. Una tragedia ed è fuori gennaio, oggi invece 24, 25, 24 mi sembra, quindi una tragedia è fuori gennaio, febbraio già è corto che è di 28, quindi poco ci manca già la primavera, e vabbè, ma comunque dice che cambia, c'è questa perturbazione di passaggio, speriamo che cambi e così siamo a posto. Speriamo a vedere come si sistema i giorni più avanti. Ma questo mese, febbraio è corso, gennaio, febbraio è corso, poi è marzo, aprile, maggio, giugno, e siamo andati in fine. Domani c'è il figlio, come l'uomo, cazzo sono ribassato tutto febbraio è tosto, febbraio è freddo, gennaio e febbraio sono i mesi più freddi, marzo se fa bene, se fa bello dovrebbe iniziare qualche giornata di tempo bello, capito? Poi aprile, insomma, già si è in discesa, aprile, maggio, però ancora avete tutto l'inverno abbassati, vabbè. Prendiamolo così com'è, vediamo se è rientrato Giulio, no, Gianni. Sì, sono qua, aspetta che ti mando la fotografia di quella bobina, Franco, adesso ti mando la fotografia. A voi Gianni sei andato lui, a fare la fotografia. E io perché devo salire su, se ne parlavamo poco fa di questa antenna, ero su, te la mandavo io subito, una giovane durata stata sopra anche perché c'è freddo. Quel piantone invece mi hai dato tu, quello l'ho fatto nuovo, fra, tutto lubrificato, smontato la spirale, tutta passata con l'acciaio, con la tela, tutta rimessa a posto, gli occhiali nuovi, è già pronta a montare quella, già tarata, capito? Già tarata, l'avevo tarata su con l'analizzatore dell'antenna, già tarata pronta, è pronto, e quello è un piantone di Mantova 1, capito? Mantova 1. Sì, lo so, della Mantova 1. Poco fa non se lo è, i radiali che tu avevi detto, i radiali li hanno arrivati a coso, Graziano li avevo dati, infatti gli avevo detto di comprarsi la resina e farseli fare, o farsi fosse di lui se riusciva. Sì, ma io posso mettere anche, perché l'innesto, i radiali che io ho della Mantova Turbo, li avevo cambiati, li avevo messi leggermente più fini, ho detto, così la tenuta è superiore, perché più grosso lo metti l'occhiello girava male. Allora avevo appena stretto gli occhielli, no? Nella bella contropiastra e i sostegni, e avevo messo le radiali, e sono dello stesso innesto, entrano anche nella Mantova, nel piantone della Mantova 1. Quindi ho quelli, quando voglio tolgo quelli in resina e metto quelli in alluminio, non ce n'è problema assolutamente, capito? Di mettere radiali in alluminio, però aspetto che adesso i radiali si distruggano, perché li ho già trattati due volte con questa vernice che mi ha dato il carrozziere, proprio per la resina, passare sopra la resina per fare da tenuta, da isolante, capito? Infatti sono lucidi. Quando non si torna, ne ritolgo quelli e li metto quelli in alluminio, capito? Tanto ne ho 8, quindi. No, io adesso finché non fa bello non la porto giù l'antenna. E dopo una vera, se vedo che fa giornate belle, allora la porto giù. Tanto io sgancio due bruni e l'antenna mi arriva sino ai piedi, mi arriva. Ecco, ciò posso lavorare anche la terra. Guarda, la mia non ci bisogna manco di sgacciarla la Mantova, perché è a testa d'uomo. Ci arrivo, esce tutto il collo e la testa, quindi con le mani posso lavorare tranquillamente. Dove adesso ne ho bisogno di mettere pali alti, così animo. C'è un palo da mi pare neanche 4, sì, forse 4 metri, due sono attaccati al muro e sono da sfidare, tutto invece appoggiato a terra, e gli altri 2 metri sono fuori, quindi basta che sia 2 metri, 2 metri 50 dal piano di terra. Va benissimo, qua vi ciò esattamente vero. Proprio si muove appena nella T230 da Chemo, vero di stazionare, proprio, vero. È perfetto. L'altro piantone l'ho tarato così lo stesso con il realizzatore d'antenna, quando abbiamo montato le direttive. E c'era Luca, c'era il realizzatore d'antenna, abbiamo fatto anche quello. E sono a posto. Mandate la chissà fotografia, mando giù. A me mi è già arrivata, e vedi, se è quella che dico io. Vedi la cagata che hanno fatto, lo vedi? Questo tubo, questo appoggio in plastica dove poi ci va la contropiazza, vedi i radiali? Ecco, quindi bastava farli passanti. Poi chi tu dubbo? Tu dubbo che hanno fatto? Guarda. Quello lì ci voleva un altro tubo a innesto, in modo che si poteva mettere una cravatta. Non l'ho visto io ancora. Proprio una stronzata, ma dimmi tu, cosa hanno fatto? Una bella documenta hanno fatto. Che lì bastava il tubo in resina, fare un altro tipo di sistema, questo piantone della contropiazza scenderlo più giù e lasciare il pezzo di alluminio per cravattare il cortocircuito dell'antenna. Va? Lo si potrebbe sciogliere un po' di stagno e quella cavatura metterglielo. Dovrebbe rientrare questo. Rimane a livello di palo, di tubo. Sì, potrebbe anche darsi, è possibile, però poi è difficile entrare la calotta qua. Ho fatto fatica a togliere adesso, ho fatto fatica a togliere la calotta. È perfettamente precisa, che non c'è spazio. Il problema è quello, hai visto com'è il contatto, è lì che si interrompe, hai visto dove ci sono tutti quei tagli di cacciavite? Lì, perché l'ho fatto io ormai due volte, prima ce n'erano solo due fatti da loro, poi io ho continuato, li ho rifatti e mi abbiamo rimesso a posto, però è sempre quello il discorso, si molla lì, o perché si ossida quel filo, o perché il contatto dell'alluminio se lo perde, non lo so, ma so che non fa più cortocircuito. Sì, allora, vedi quella scavatura che c'è sotto? sotto. Allora, lì, da lì, potresti sciogliere un bel po' di staglio e buttarglielo dentro, buttarglielo, e poi limarglielo e farlo giusto giusto come il falo, come il tubo. Limarglielo. E anche a metà si potrebbe fare. Sì, si potrebbe fare così, però poi, ripeto, c'è difficoltà in traccio, perché quando sono lì a sotto a 0-0, non è facile, ci vuole, intanto ci vuole uno scaldatore che scaldi molto, e devi pensare che scaldando molto, molto molto, puoi buttare anche col tubo di resina, visto col tubo che c'è di resina, dove entra poi lo stilo centrale, e magari rovini il tubo di resina e dai butti sull'antenna. Perché quello è l'isolatore, mister. Appunto, perciò, se io non salto con uno saldatore molto potente, perché l'alluminio, se no il tubo, non ce la fai a saldare, perché se non salda, non salda. Ma potresti anche, a quel punto lì, rovinare il tubo di resina, si potrebbe rovinare, a meno che non si riesca a togliere il tubo di resina, saldare e poi rimettere il tubo di resina. Ma non è facile, però, non esci. Fissato bene, non lo so come, ma è fissato. C'è una fusione, è una fusione tra il piantone, quello lì nero, dove ci va la contropiazza, e il tubo di resina, e l'isolatore di resina, è lì dentro, perché poi vedi che da sotto dove ci va la contropiazza c'è l'alluminio. Aspetta, ci va l'alluminio. Quello non è un problema per i saldatori, sono due che vanno dai 5 ai 600. Aspetta che lo sto forzando a vedere se riesco a togliere il tubo di resina. Aspettate un attimo, lo sto forzando, vediamo se riesco a toglierlo. È fuso quello, Giulio, è entrato a fusione. A macchina è entrato quello. A uscire ne esce, ma sicuramente ci vorrà forse la pressa, però lo puoi rompere. Quello messo nella pressa piano piano con un tacco di legno, può darsi che esca dall'altra parte assieme al tubo in alluminio, sto vedendo, sì, ma già è così. A me da razza di cagata che ne ha fatto ora, che bastava che il tubo, l'isolatore in resina andasse leggermente più corto, il piantone della contropiazza leggermente più sotto, mi lasci 5 cm di alluminio, lì con la cravatta mi sarei collegato con l'anello della massa. Comunque, io ti dico che ci riesco a fare, perché i caldatori ce li ho, uno va a 450 e dovrebbe essere anche, basterebbe anche con 450 per scaldare. Sì, se fonde bene lo stagno, lo fai colare dentro, potrebbe essere una soluzione, fra. Però la soluzione migliore è quel saldatore a muso, come lo chiamo io, no? Quelli vecchi che hanno il coso in ottone, quelli scaldano molto, che usano proprio i cagnini per il coso, quando va a tenere i gazzari, quello lì. Con quello lì secondo me si riesce a farlo bene quel lavoro. E poi, come hai detto tu, bene limato, o con una molettina leggera, oppure piano piano tappetti una lima, o l'imbevè proprio, che poi te lo giri con la tela, deve essere perfetto, una volta che c'è la colatura dentro, e poi puoi innestare il piantone. Certo, certamente. Infatti ne ho uno è 4,450, l'altro salvatore, lo sto guardando adesso, vedo quanto arriva, 4, dovrebbe essere 4,80, 4,80, 4,90 dovrebbe essere, a voglia di Giulio. Sì, ma come dice Giulio, se tu lo fai sul posto lì, se riesci a sfilare l'isolatore in resina dal piantone è meglio, e poi lo reinserisci una volta che l'hai lavorato, ben fatto, perché se tu vai a scaldare lì sotto il piantone, l'isolatore in resina si può bucare, e allora hai perso l'antenna, Sì, quello sì, e beh, si deve fare in modo che di non danneggiare la resina. Perché se ti si buca la resina lì, perde tutto il sistema isolatore col piantone in alluminio, e come fai tu? Devi reginare di nuovo, allora fai spessore, è un casino, non esci. Però, allora se quel tubo, questo bianco, quindi il piantone di sotto della contropiastra, quello va a innestare sul tubo di sostegno, e ci siamo, sotto la contropiastra va bene, l'isolatore, quello lì in resina, praticamente va a innestare il tubo verticale, giusto? Se io al tubo verticale le faccio, anche se lì mi fa spessore, che non me ne affrutti nulla, l'importante è che sia fatto bene, sa, se al piantone che innesta lì nell'isolatore in resina, io lo spacco, ok, dandole un'apertura maggiore per poter innestare meglio, e poi anziché una fascetta in chi mi rimbongo lui, basserrammi bene, che problema è? È tutto da vedere. Bisogna vedere come, sì, l'altro tubo deve entrare sopra e coprire anche la bobina, dovrebbe coprire il tubo in resina, dovrebbe coprire. Sì. In effetti si potrebbe fare anche al tubo esterno. Allora, il tubo sono riuscito a toglierlo, una volta del diavolo si è voluta per sfilarlo, perché anche quello, la resina, è talmente preciso al tubo di alluminio che c'è attaccato al piantone. Visto adesso che ho mandato un'altra foto, con la bobina praticamente attaccata solamente al tubo di coso. Ecco, adesso si potrebbe anche saldare così, vedi, come adesso si può saldare. Visto che c'è l'altro capo del filo di quella bobina, lì quando si infili il tubo di resina, c'è nel tubo di resina un foro in corrispondenza appunto di un bullone dove si va attaccato quel filo lì, che poi a sua volta da lì c'è un filo elettrico normalissimo che va a finire all'esterno della carrozza, dove appunto c'è un dado con un controdado e una rondella da poter attaccare il collegamento tra lo stilo centrale e la massa. Praticamente è un filo che allunga la bobina, in poche parole, però è semplicemente un filo di collegamento, ma niente di più. Però il danno si verifica sempre dove c'è quell'incavo nel tubo, dove c'è attaccato appunto la bobina, che io adesso l'avevo già messa a posto questa. Adesso lo dovrò fare, messa a posto. No, non fate proprio per farvelo vedere. Ecco com'era Franco, hai visto? Sì. Vabbè, non l'ho vista montata, però ce l'ho le due montate. Sì, per me si potrebbe fare il lavoro. Sì, adesso così si può saldare, certo, così si può saldare. Ci vuole un saldatore di un certo vantaggio per poter fare la calata di saldo, come stavo dicendo tu, dentro quell'incavo. Sempre che sia sufficiente e regga, perché a forza di vibrare, come vedi, il spazio c'è pochissimo, c'è quasi niente, ci sono solo quegli incassi del coso, perché il filo che sta lì è talmente preciso all'incavo che di taglio ce ne sta ben poco. Una volta che è stato soldato, vuole di matto bene a filo di tutto, perché se no non entra più la carrozza. Ecco come la al massimo tutta una bella fila se ne può rimanere di taglio, ma intanto ci vuole un saldatore abbastanza potente, se no non ce la fa a raffreddare il tubo d'alluminio. È a saldare, non a raffreddare, a saldare. Ma lei è uno che è a 4,80, a sale sino a 4,80, e uno a 4,50, io penso dovrebbe saldare bene. È possibile sì, che possa saldare bene. Magari ci vorrebbe uno di quei saldatori a martello, in modo da appoggiarlo, per saldare prima bene il tubo e dopodiché saldare, mettere lo stagno. Non lo so, è possibile fare così, però ripeto, è dura poi, dura, oppure ritorna a fare lo stesso difetto, che lo sa, boh. un saldatore da Sannino, come hai detto tu, quello a martello, che stavo dicendo io, fra. Quelli arrivano a 500 gradi, ma non sono anticati, dici, diventano rui, dici. Quelli da Sannino ci vogliono, che automaticamente mentre stai saldando te lo allisciami, te lo vasi di giù di giù. E appunto è quello che sto dicendo, ci vuole un saldatore così potente, a martello. Io una volta ce l'avevo, ma adesso non ce l'ho più, già da tanto tempo. Vabbè, cosa ci vuoi? Ci sono vendendo, non costano mica tanto. Quelli da Sannino, ma sai cosa va via? Va via l'ugogio acceso, tipo un cannello, e sotto c'era questo affare a martello che si innestava, la fiamma andava a scaldare il martelletto, il martello, no? Diventava ruio, lavano le loro per saldare i gagliari in coso, li faziani, no? Come si chiama? I vecchi Sannini, i vecchi Calderari, quelli lì, no? E praticamente lo appoggiano con la bacchetta però di stagno, non chi ci avviene vini, con la bacchetta di stagno, Giulia, la bacchetta di stagno vi appoggia nello vasino camminare. Sì, claro, sono quelle che usano le camere mortuarie e quelle cose lì, le ho viste. Uno di quelli non è che costa tanto, costerà sui 20-25 euro. E quelli che stanno facendo le grondarie in alluminio ce l'hanno. Quelli lì, perché li ho visti lavorare lì proprio nella zona tua, a Sorso. Capito? Faccio prendere la grondaia, prima ne fatto tutta la grondaia, poi le giunture della grondaia le saldavano con questo coso a cannello a stagno. Ma una dose eccezionale. Questa pacchetta di stagno, 30 cm, si giulia in un minuto e la fazia camminare in alto all'alluminio, proprio sembrava un cordone fatto apposta. Sì, sono fatti apposta per fare così. Non è un problema quello prenderlo. Giulio, io faccio due cose, anche per noi. Sì, fra, facendo così, sì. E adesso ti sto mandando una fotografia, perché in quel tubo di resina che io ho tirato dal tubo di alluminio, ripeto, c'è sotto un tappo di gomma ed è forato. Quello evidentemente per quando cade l'acqua dentro, magari in modo che poi si voli via attraverso il tubo, eccetera, eccetera. Adesso se te il tubo di resina è lungo 25 cm, è lungo, ed entra perfettamente dentro questo tubo dove si è attaccata la bobina, vedi dove si è attaccata la bobina, quello lì è il tubo di alluminio che poi a sua volta va attaccata alla cosa, al tubo di delle gaffe, diciamo, dai, al tubo di sostegno, il mattolo, al palo. Dunque c'è questo tubo di gomma attaccato a quello di resina, che adesso ti ho mandato la fotografia, infatti l'ho messo di dritto, l'ho messo per fatto bene, c'è un buco sottile in modo che l'acqua possa scendere da lì, magari a goccia a goccia, ma scende, però non rimane dentro sicuramente perché è bucato. Ecco com'è. Ecco, tutto questo, il procedimento dell'antenna è questo. Poi il piatto, vabbè, il piatto è il solito, la carrozza della regista, com'è? Sotto la carrozza c'è quel piatto che ancora è abbastanza pulito, non è arrugginito per niente, e va benissimo così. Vabbè, dai, riprendi qua, dai. Sì, ma lo sto controllando, è così. Se si riesce a trovare uno di questi allattori da Sannino, a cannello col martello, quello lì esce un capolavoro, perché tu quello lo riempi con la barra, però compri la barretta di stagno che è fatta apposta per fare quel lavoro lì, compri la barretta di stagno, gliela appoggi sopra, gli fai una strisciata, uscimi, lui entra dentro, diventa liscio, una passata di tela e ti dovrà pure tutto l'innesto ed esce un capolavoro. Così sì, se sei riuscito a togliere, io invece non l'ho tolta l'isolatore in resina, capito? L'ho lasciato attaccato perché in la mia non si era attaccato qualcosa. A me il piantone era tutto il coso, quella contropiazza per attaccare lì, ha tutto un frasico. Fabrizio l'ha tagliata in due e si è portato via solo gli elementi, capito? Se no, se avevo quello lì io, si poteva sistemare la contropiastra, sistemare quegli affari che era più facile, e traverato il piantone intero, ma non ce l'ho più. Sì, adesso visto, considerato che questo tubo che resi l'ho tolto, lo pulisco e poi lo ripiazzo, lo rimonto com'era, così, perché hai visto la parte nera di quel tubo, un pezzo però almeno 10 cm, e hai visto. fidato, però col cazzo tipo che so io, quando due coppe metalliche si uniscono insieme a lungo lavorare, poi a un certo momento se c'è soprattutto un po' di olio eccetera diventa nero, ma non è arrugginito, è assolutamente è lucidissimo, anzi, perfetto. Sì, e beh, un po' di colore lo perde, quello è logico, quello perde sempre, si fa più opaco, si fa. Sì, si può fare, come salgo da Bicolo, guardo, da prendere, perché Bicolo ce li ha quei caldatori lì, e qui c'è anche la bacchetta. No, ma già è così, quell'innesto, prima di metterlo, fare quel lavoro, Giulio. E poi lo ripiazzi una volta che hai fatto quel lavoro, adesso che è fuori lascialo stare. E così viene bene a saldarlo, a riempirlo di stagno. Voglielo ripilare, no Giulio, quello lì. Lasciaglielo fuori. Adesso lo metto tutto provvisorio, se no fai con il bici, magari. Se no devo prendere una scatola e mettere tutto dentro, perché qua ci sono bulloni, bulloncini, eccetera, eccetera. Perciò devo sistemarlo in maniera da non perdere niente. Poi a montarlo già. Infatti non è difficile, allora mi prendo la pugge solo così dentro, un pochettino, se no poi devi fare forza di nuovo a toglierlo. No, ma infatti adesso basta pulirlo e lì lo punti lì per non perderlo, lo lasci buntato, poi quando decidi di sistemarla si fa quel lavoro, fai quel lavoro lì, con quel saldatore esce una canonata, un'altra passata di tela, bendata, si mette tutto e per me non si stacca, assolutamente. Sì, cazzo, bella cosa che hanno fatto, guarda come nascita, eh? Hanno messo, in un taglio hanno messo un filettino e basta, e lasciato. È una porcheria, ma si vede anche dalla fotografia. È una porcheria, se quello fosse veramente a bullone passante con occhi e latto non si staccherebbe mai, perché è un semplice filo bobinato su un isolatore in resina da 0,8 mm quadri. È chiaro che tu quando lo inserisci lì e l'antenna flette oggi e flette domani, anche perché quel piantone ha una flessione flette, perché hai visto che c'è 50 cm di innesto dove poi ci va il tubo e lì flette l'antenna, flette oggi e flette domani e si stacca, è appoggiato di su viro. Se invece è saldato bene, coperto di stagno, è fatto bene in modo che entri bene a forza, a vedere che non si stacca più. Non si stacca, no, come fa a attaccarsi? No, lo dovevano fare loro prima di montarlo, quando lo stavano assemblando l'antenna. Prima di assemblarla, dovevano farlo loro quello. E magari ha progettato questa antenna, da giudizio c'è un po' garedo incicciato. Perché un progettista non fa una cosa del genere, ripeto, fra la piastra e la contropiastra, la piastra è zingata, la contropiastra, se tu la vai a dire, è ferraccio, e i cavallotti dove vanno a innestare i radiali in alluminio, è ferraccio, le viti sono ferraccio, i correttori sono ferraccio, con l'andare del tempo. La piastra di appoggio ti rimane sempre bella lucida, la contropiastra dove ci sono i cavallotti ti si arrugginisce a putti din, che con l'andare del tempo a me mi ha durato 2 anni nemmeno. La giù per sotto i radiali, tu vai nella mano, metti l'antenna che ne vedi il radiale, l'ho abbassata. E i cavallotti erano tutti fragili, proprio rugginosi, capito? Rugginosi. Ecco perché ne perdevo i radiali, perché il lavoro è fatto male. In più c'è questa storia che io non me ne sono accorto, non l'ho mai controllata, ma guardaci pure che anche la mia si era attaccata, io manco avvisato me ne gioco, però ho visto che non, il filo era collegato, era tutto attaccato e niente. Però era tutto frasico, tutto marcio, tutto rugginoso. E quando è venuto Fabrizio a prendersi i tubi, l'ha tagliata in due. Ha detto non mi serve questa la buttare via, non serve a nulla. E così ha fatto, ce l'ha buttato. Capito? Sì, mamma mia, io me ne ero accorto di questo. Una sera parlando con Giulio, mi ha detto prova a controllarla, invece prova a controllarla, siccome ce l'aveva portata di mano al testo, l'ho provato, cazzo buca, perché se no il bip deve suonare. Nulla. Certo, perché tu uscisci attaccato a vetro e quindi l'antenna non è più cortocircuitata. No, non è cortocircuitata, no. Perché io devo mettere a fuoco caldo e RPL deve suonare. E io dico, non suona, scendendo a tubo diretto tu. Sì. A tubo diretto sta andando, ma non gli dovrebbe fare niente. È sempre meglio che sia cortocircuitata l'antenna, soprattutto la posizione verticale. Però se va, finché la barca va, capito mi hai. E uscire, vabbè. Comunque io dirisci antenna, di dimissioni i viaggi. Grandi prestazioni, è uguale alla Mantova, non cambia niente. La Mantova 1 è la 5. Molto esteticamente è fatta in una maniera equa, in una maniera che non ti creano problemi, col suo 0,8 mm quadri, bobinato, occhiellato anche dentro, è saldato sotto e non si stacca mai, perché guarda, io ne ho cambiato di piantoni sempre attaccati, no, è difficile che si stacchi, ma non che proprio non si avvicina l'antenna, ma... Poi io lì gli ho messo tutto sopra il coso, tutto il grasso di vasellina che c'è ancora, proprio nel luogo con il strato ci sono i bulloni, luci. Cazzo, riprendi Giulio. Dai, continuate voi che sto cercando di rimontare adesso, che poi devo tirare anche la cassetta dei freni qua, hai dovuto un po' di disordine. Continuate voi, dai, già dentro. Ma smontata, mandatamela. Che cosa va? Ha fatto smontata del tutto, qualcosa, mandatamela voi. Sì, che te l'ho mandata, la parte è smontata, no? Cioè la calotta è smontata, visto? Se ho fatto bene la bobina, e quando le togli la bobina fuori vuol dire che è smontata tutta, capito? Ah, cazzo, sì. Non avevo vista l'altra. Hai visto il tubo di resina? Quel tubo che c'è dritto in piedi, quello c'è un tubo di un coso di gomma sotto, un tappo, no? È polato quel tappo, in modo che quando passa l'acqua da lì si scende, capito? Ah, l'ho visto, quello nero. Appunto, quello nero, sì. Sì, lì c'è quel tappo che serve per far colare l'acqua nei due tubi di sostegno. Ecco, allora lì riuscimmo, o meno. Come la rinforziamo vedrai che poi non ce ne va più. E fatto uscire in quella maniera, con quel saldatore a martello, a vedersi di Giulio con la bacchetta di stagno gliela appoggi sopra e con una intrecciata, chiuso si piena, una vedra rimanda, una bassata di tela e ci rimetti dentro il piantone con l'isolatore. Il lavoro è bello che è fatto, però come hai detto tu giustamente, ma è possibile che un progettista non si sia accorto che quella è una grandissima cagata. Lo fai tu prima e poi fai un sistema praticamente a fusione in modo che non si possa più staccare. Basta. Allora sì, sarebbe stato un bel lavoro, ma uscire una cagata e lo verrebbe a dirlo. No, io pensavo che era diversamente, che c'era una bobinetta o un filo saldato, invece no, è incastrato solo e basta. Incastrato è messo tra due, tra un taglio, è stato fatto un taglio come nelle antenne. Le antenne da un restringerle dove metti i morsetti, lì c'è il taglio, è un taglio uguale, identico a quello. Ecco, avanti. Buonasera a tutti alla ruota, lo so che ci sia appena acceso, ho sentito Franco e Claudio, buonasera. Ma siamo dove? In terra. Ehi, hai una camera vuota là. Ah, sopra, hai rimesso nuovamente, hai attaccato il barracchino. Ehi, sopra una sedia ce l'ho là, perché mi stavo facendo dei lavoretti qua, adesso stavo smontando ancora qualcosina, e l'ho provato così là. Vabbè. Ciao, Massimiliano, buonasera. No, c'è anche Giulio, io fra... Non molto stacco perché ho portato il cane, visto che ho abbassato anche il vento, fra. Sì, fra, è una grandissima porcheria. Perché quel taglio, sì, come si fa per gli innesti, ci sono i tagli per l'acqua, poi vanno messati gli elementi e fascettati per per mantenere uno attaccato all'altro, però lì no, non è questione di fascetta, lì è questione che è arrivata una porcheria, perché quel cavo doveva essere fatto a regola d'arte e poi innestato con l'isolatore invece. Vabbè, avanti Frappe Massimiliano. Capo. Ciao Massimiliano, dopo tanto tempo ti sei fatto risentire. Avanti a te. Diciamo che sono un po' mezzo incasinato ancora, capito, e quindi che ancora non sono proprio al 100%, come il sistema un po' ho già ripiato tutto. Capo, va bene, almeno a noi ci facciamo quattro chiacchiere. Avanti Giulio, ci sei? Oppure stai facendo ancora? Sì, sto ancora facendo. Ciao Massimiliano, dai, il tempo di salutare a Massimiliano, almeno quello lo tocco. E così, devo girarmi tutti questi in frappe, li metto in ordine, perché sennò poi magari posso prendere qualche pezzo e allora addio. E vabbè, dai. Riprendi su Massimiliano, dai, e rientro fra un po'. Ciao Giulio, ben ascoltato dopo tanto tempo. E vabbè, riprendete, tanto io sono qua che sto svitando un po' di mobili, là. Già vi sto ascoltando. Ma gli elettromestici portate Giulia? Tutto, noi stiamo vivendo già giù, capito? Però quel mobile, quello lungo, diciamo, dove avevo la radio, dove avevo la televisione, tutto guadagnavo e mi sto recuperando, capito? Ma lì Massimiliano non recuperi niente, non te lo fai un altro mobile per giù? No, perché mobile mi farò qualcosa, sì, con questo legname, adesso mi... con questo legname che sto togliendo mi devo fare uno sportellone, capito, per una finestra. Poi quello che avanza mi faccio un mobiletto per mettermi in acquario. È un peccato, perché è bello. Quella pintata ha fatto tutti gli scimbiani, quelli sportelli sono fatti bene. Recuperarli, mi... Ho capito. Va bene. Poi lì bisognerà fare anche il coso. E dove lo metti le radio, Massimiliano? Nell'angolo dove c'erano quelle le finestre, dove c'è la finestra, la porta finestra, o verso dalla parte del bagno, per capirci? No, radio da qui devo togliere completamente, perché sennò qua nasce un corridoio, capito? E queste radio qua non vanno più bene, devo proprio toglierle. Sto pensando di comprarmi un mobile, o me le metto in un angolo in camera da letto, tanto lì poi svuoto in camera da letto, oppure mi faccio un angolo lì dove c'è il bagno, un angolino, ma ti dico che metto una radio, un alimentatore, boh, tanto non mi interessa più nulla. Ci bugato tutto, la scrivania, la base è quella fronte e finestra, c'è solo il computer con la tastiera, non c'è più niente, Massimiliano. Che devo trovare, se tolgo il DAC e mi passo il computer nella base quella che è attaccata al muro, quella base lì la tolgo perché non c'è più niente, io ho eliminato tutto, cosa ne va? Aggiustavo tutta questa roba attaccata, pagosa, per guardarmela, per la polvere, no. Lì basta una radio, quella che è qua, già lo sai, che è dentro l'armadio, appena sei pronto si piazza quella con un microfono di quelli che hai, che io ho già testato, o un più 5, o un più 4, o un più 3, lì e boh, e tu sei a cavalcioni, cosa di una frutti. No, c'ho anche un Turner più 3, magari bisogna provare anche quello come va, capito? Quando vuoi venire a pigliartiti che ti microfono così me li controlli. Sì, metto quella radio e questa qua che ho sistemato, basta, il resto una me la porto per l'escavatore, il resto ti muovo tutto, piazza pulita, non le voglio più sapere. Cazzo, quindi ho uno scatolone pieno di radio, buttate, guarda, scommutatore di antenna, gli ho tolto un saccaccio di roba. Massimiliano, antenna diretta con due radio, senza nulla, sacro BL, quando dicevi una l'attacchi all'altro, troppe perdite, troppi capi in mezzo alle balle, senza niente, non futti dire, poi quando sarà il momento che ci sarò anche io lì, lo vediamo assieme. Massimiliano, ti ho detto che sono senza macchina, se non pensi che non sarei già sceso, sono senza macchina, c'era mio cognato perché la sua è in officina, e gli si è rotto il cambio, capito? capito. Mi ha detto che me la dovrebbe dare sabato. Spero me la dia sabato, non domenica, perché io domenica mi giro la macchina. Perché sto usando quella Ilaria, però negli attimi che Ilaria è a casa, capito? In moto non si può uscire, se no non sarei sceso anche in moto. Ma come fai con questo tempo a scendere in moto? Comunque non ti preoccupare, appena posso scendo così poi mi tuffo e mi riprendo, me li metto in quella base che adesso c'è un bel posto, li apro tutti, li pulisco, li provo, tanto c'ho l'adattatore per tutti quei microfoni che vanno bene anche per il Cobra, c'ho l'ALA 48, c'ho il DAC, c'ho tre connessioni diverse, quindi li posso provare in tre radio diverse. Avanti, Fra. Caspita, è dall'altro sabato che ti dirà di là la macchina, è ancora da tira. È una cosa allucinante, ma lo sai quelle macchine quando entrano in officina, come ti so, e tu le usai, no? E tu scegli con tuo fratello, ma io già di Guido che ha portato la macchina a questa, domani, manca questo, manca quello, manca quell'altro. Sono cucino i meccanici. Prima di dire una cosa, infatti doveva già averla la settimana scorsa, invece questa settimana ce l'ha ancora lui, però garantito che io sabato voglio la macchina, chi viraggia non viraggia, se la fa dare dal suocero, a me non mi interessa, io sono capito, due ghetti, due settimane, meno male che stavo male, non sono uscito, ero a casa, eccetera, eccetera. Adesso che sto un po' meglio, che potrei uscire, non posso uscire che ho capelli, capito? Ciao. Io gli ho detto, guarda, lui mi ha detto venerdì 8 me la dà, 8 febbraio. Se non me la dai, ha detto se non me la dai, voglio me ne prima tu io. E detto fratello, immaginati tu. No, vabbè, io gli ho dato perché intanto a me non è che non me la fotti nulla, io sono sempre a casa, devo andare in campagna, vado col mio vicino di casa, non ce n'è problema. Se devo uscire a prendere le sigarette, esco la mattina presto a prendere un caffè quando appunto mia figlia è ancora a letto, e quindi uso la macchina sua, però per fare spostamenti giornalieri durante il giorno poi se va nuda perché la macchina ce l'ha lui, capito? Poi il tempo è anche brutto, se no quante volte sono sceso io a San Giovanni in moto, non ho problemi, però il tempo è brutto e non posso, quindi a freddo va, freddo non me ne ha fatto nulla di batti, ma se ti bagni, capito? Mi gioco appena uscito da una vera tempesta, perciò è meglio che ancora sia a riposo, che sia ancora un po' al calduccio, perché ho ancora un po' un residuo. Va bene, quindi Massimiliano è in stand by, Giulio entra subito, Fra, io mi preparo perché sono già alle 8 meno un quarto, il cane mi sta già guardando male, ho paura che mi aggredisca perché vuole apportarlo, capito? Ho visto che il vento è un po' calato, se non sta piovendo ne approfitto e vado a portare a Filippo a fare un po' di pipì, dai. Ok, lascio acceso, se ci siete dopo rientro, Fra. Sì, non lo so perché sono quasi le 8 e poi al limite dovrei riuscire a mangiare e niente, aspetto quando viene Giulio e poi vediamo, vai. Allora ritrovatevi tutti salutati, Massimino già ci aggiorniamo al telefono, ciao Fra, allora se coincide, se no a domani come sempre, ciao a Giulio, ciao a Gianni che è parito, la si è caduto da Andrea o da Loretto, va bene, dai, è a quelli che stanno ascoltando, ciao a tutti, ciao Claudio, buona passeggiata. Ciao Cla, ci sentiamo, va. Ehi Massimo, ci aggiorniamo, dai, ciao. Ciao Cla, a domani, ciao. Fra, da questo passaggio qua, a questo passaggio qua, cosa ha cambiato? Niente, ti sei leggermente abbassato di segnale, basta. Radio sempre normale, 75. Cioè così mi sono abbassato di segnale? Come hai fatto poco fa, sì, ti sei abbassato e tu ti sei... Sì. Ricordi di nuovo appena. Allora, così è senza Top Gun, cioè radio classica normale, e così c'è il Top Gun inserito, basta, non è che ho sollevato vatti, niente, tutto normale. Sì. E si è abbassato il vostro, il secondo passaggio si è abbassato un pochettino. Quindi questo passaggio mi sono abbassato? Tieni la portata qui, la portata qui che tieni, se no, perché quel microfono mi pare che ti lunga un mese. Sbatta un bello. No, è la camera che è vuota, capito? Quindi rimbomba tanto, aspetta, eh. Ah, ti faccio un passaggio così, guarda, muto, eh. Uno. E questo è l'altro. No, non ha cambiato niente. Ecco, è quello che volevo capire. Non ha cambiato niente, poco fa mi sembrava che cambiava perché tu la modulazione era troppo alta, capito? E quando parli fai da 9 a 9.20. Posso abbassare un po' il micchino, non so, così. No, no, ho abbassato quello, fatto quello là muto. E il segnale è sempre lo stesso, no. Ah, ecco, no, no, è perché inserisco solo il top gun e basta, ecco, tutto qua. Ecco, no, va bene quella radio. Bella applicazione. No, no, c'è il microfono suo normale, là. Questa mi è appena arrivata perché ce l'avevo, che la stavo sistemando, un fulmine mi ha bruciato completamente i finali, capito? Radio spenta, tutto spento, ma bruciato i finali. È collegata alla corrente. E allora? Come ha fatto a me? A me mi ha fatto partire un alimentatore e un coso, un baracchino, mi comare che mi devo servire un cavolo. Vabbè, Brusino servirà un cavolo, però per dire, no? Il giorno che si è bruciato c'era Claudio, mi stava dando la mano lì, stavamo coprendo le scale, stava piovendo di brutto, ha dato un tuono, gatto, una saetta, sembrava che era sceso proprio vicino a casa. Strano, ho provato a vedere se era tutto a posto, ma senza modulare, senza niente, capito? L'ho provato così, accendeva, ricezione c'era, poi guardo invece il wattmetro e non andava via, capito? Dava solo un watt. Sì, la corrente attaccata, perché anche a me ha fregato così, con la corrente attaccata. Le antenne attaccate, c'era la corrente, ho lasciato la corrente, pensavo che non faceva niente, e invece mi ha colpito. Però mi stavano dicendo, siccome questo qua è un ingegnere elettronico, no? Mi stavano dicendo, anche se tu puoi mettere un salvavita, che abbassi il salvavita, la corrente comunque le rimane sempre. Vabbè, quello sì che rimane, a meno che non gli stacchi direttamente tutti i cavi della corrente al radio. Sì, io ce li ho tutti in una ciabatta, ce li avevo anzi a chiamare una giumi, la giughita è nata da Gadria, l'ho collegato così al volo, ma giusto se devo farmi due passaggi, mi tipo oggi, adesso ero forse 4-5 mesi non accendevo più nulla. No, io ne ho tre ciabatte, perché sono tre cose, su televisione, computer, radio, paracchini, un'altra radio là, e ne ho tre, ne avevo quattro, uno l'ho eliminata del tutto. Alimentatore, ne ho due collegati. Ah, vabbè, io già ne ho uno grande, che abbassa la voglia, quello fa 12-24, quindi sono 300 ampere, a voglia. Sì, potete fare buche per me. No, io ne ho uno da 40 e uno da 30. No, poi gli altri già ne ho, cioè i classici, ne ho uno stabilizzato da 10 ampere, di quelli pesanti, però non è ZG, quello pro trasformatore, bello grosso. Poi ne ho uno, un Proxel da 25, uno da 30, da cosa va giù? Mi pare che ne ho anche un altro pure. Uno da 3 ampere, vabbè che quello lì non mi interessa, è piccoli piccolo. Quello mi serve per fare delle lavorettine e roba così, e uno grande che alla fine ho usato un case del computer e ho messo 6 di quei moduli da 50 ampere l'uno. Hai fatto l'abbinamento, sono bene anche qui, però capita, lo faccio, dici? Questa è una cazzata, lo so un pacco. Questa è una cazzata, perché tu vai a comprare già un alimentatore da 40-50 ampere e lo paghi intorno ai 150 euro, alla fine 120. No, non volevo dire un pacco nel senso di soldi. Un pacco grosso ti è uscito grande questo alimentatore. E poi, guarda, se tu vai a Sassari, ai cinesi flussi 50 ampere per 25 euro. Lo so che ci sono, ma io li ho pagati di meno dei 25, capito? Li ho visti anche quelli da 50 ampere, i miei sono tutti da 50 ampere quelli che ho fatto l'alimentatore, però li ho pagati di meno dei 25 euro. Ci vediamo, però, un alimentatore da 30 ampere. È la finita, se mi sbaglio, per esempio. No, che so, 300 a 12 e 150 a 24. C'è un alimentatore autocostruito che è la fine del mondo, Franco, guarda, l'ho visto io, ma la fine del mondo veramente, con tutti quei sistemi accoppiati, tutti in serie e in parallelo, c'è un alimentatore favoloso, costruito da un case di computer. Manno Guscimi, appoggiato a terra, con tutta la strumentazione, ma bello veramente. 300 ampere lui usa, ne può usare 120, ne può usare 60, ne può usare 80, quello che le serve, tutto regolabile, ma è la fine del mondo quel coso. Va bene, dai, sto andando alla porta del cane, mi stavo vestendo, a dopo, ciao, baci e abbracci a tutti. Ciao. E io per quello che gli ho detto, il sacco, il volume, un alimentatore grosso gli entrava uscito, con tutti quei pacchi. Vabbè, ciao cra. L'alimentatore è grosso, però alla fine cioè ti colleghi tutto lì e non c'hai tutti questi alimentatori da una parte all'altra, capito? Poi se ti capita un lineareto a 24 non ti attacchi, non da me. Quindi io l'ho fatto sia a 24 che a 12, capito? Infatti io ne ho uno da 12 ampere ne ho della ZG. E devo buccarmi di smontarmi il ducco da 20 e poi una 50. Sì, sarà l'unica. No, io ce l'ho uno da 10 ampere, però no, ZG non ne ho. Alimentatore ZG non ne ho. Io ne avevo due. Uno l'ho smontato da 30 ampere. Uno dello vecchio, quello di manometri, tutti, con basso manometri, con voltometro e amperometro. E anche quello da 12 c'ha voltometro e amperometro. E questo qua l'ho smontato. L'ho smontato e ci ho messo un 30 ampere. Adesso ho visto quello da 50 e sono riducato a 50 e quindi si dentro un altaviso. Sto a prendere, tanto cosa te ne affrutti? Per 25 euro si possono prendere quelli. Te lo regoli, tanto c'ha il temerino laterale. Te lo regoli a quanto vuoi tu, a 13,8, a 14 va bene lo stesso, non è che. E 50 ampere per 25 euro si può prendere, sì. Cavolo se si può prendere. Quando mi ho comprato questo qua, quello da 40 ampere, questo l'ho preso usato, però mai il numero 1 dovrebbe essere accato, era più belliato, il numero 2, da, il numero 2 dovrebbe essere accato. Guardavo in internet, 70, 100, 130, e io ho detto no, non dico. E allora avevo preso quello da 30 ampere, dal cinese, 18 euro avevo preso. Poi ho comprato questo qua, riesci con l'occasione di prendere questo, ho preso questo. Un attimo! Piazza, vai! Dai, vi devo salutare perché arriva sta gente, dai. Scusatemi, comunque se ho saluto lì a chi è entrato, mi sembra che Massimiliano, dai. Buonasera a tutti di nuovo. Piazza, dai, ciao Gianni, ce ne ascoltiamo allora, se devi mollare. Ciao, ci sentiamo. Aspetta che è entrato qualcuno a salutare ancora, avanti. Non ho capito chi era sotto, ti ha parlato qualcuno, va bene, dai. Questi alimentatori, vabbè, attenzione, magari quello che paghi 70-80 euro è stabilizzato, però chi è cinese, cioè di switching, mi alla fine, non è che sia stabilizzato, però vabbè, vanno bene lo stesso, ecco. Sì, ma per quello che devo fare vanno bene lo stesso, non è che, anzi, io quelli lì li sto usando da parecchio, eppure funziona sempre bene. Ma anche io avevo preso, forse ce l'avevo quasi 20 anni, quello della Proxel, no? L'avevo preso da, come ti chiama, chi su di Milano? Vabbè, comunque non me lo ricordo come si chiama quello di Milano, l'avevo preso da lui, ho pagato 60-70 euro. Ma non ti credi che è switching qui, è 30 euro. sui cinesi mi arrabbini, anche se c'ho gli strumenti, il potenziometro per regolarti il voltaggio, ma alla fine sento come te i cinesi. Sì, sono così solo. Ma anche quello che c'ho da 40 amperi io, la struttura dentro è fatta tutta quella, quello dei cinesi. È uguale, identico. E infatti è quello che ti sto dicendo, capito? Alla fine sono, vabbè, alla fine quasi di tutti in Cina, noi andiamo a criticare il cinese, quindi tutta la roba che fa il mondo è tutta cinese. Ehi, ehi, ma mi stanno chiamando giù, dai, mi devo assentare. Ci sentiamo alle prossime, dai. Saluto a tutti quelli che sono in ascolto, Giulio, Gianni, tutti quelli che sono in ascolto. Se posso, risalgo dopo, va. Ok, grazie, due chiacchierelle, ciao Fra. Ciao Massimiliano, fatto piacere. Ciao Giulio, io dovevo andare, ci riascoltiamo alle prossime, se sei in ascolto.